Lorenzo, guarda, ne stiamo parlando seriamente, tu sai che la Zanzara è il più grande bar d'Italia. Essendo il più grande bar d'Italia, gli avventori del bar ne parlano. Allora tu sei decontestualizzato. O torni a fare il Parenzo delle origini, oppure basta. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Parisoni. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Posso dire che devo contenere l'immigrazione, okay, e non avere nessun tipo di problema o comunque ritenere assolutamente normale che ci sia chi vive in Italia da 20 anni, è perfettamente integrato, poi magari ha, ha la fortuna di non doversi truccare come noi che siamo, e quindi è più fortunato di noi, punto. Oh, la teoria di Iole Santelli, ex sottosegretaria alla giustizia, nonché oggi esponente di Forza Italia. Di chi, scusi? La signora Santelli. Lei ha questo pregio ogni tanto di rispolverare personaggi che pensavo appartenessero a un'altra era politica. Ma che c'entra l'altra era politica? È un esponente di Forza Italia. Guarda che è un'amica strettissima della signora Pascale, eh. Attenzione come parli. Cambia tutto. Quindi è nel cerchio magico. Il cerchio magico della Pascale, esatto. Signora Santelli ha detto queste cose, cioè che i neri, si stava parlando, sì, della Chieng, eccetera, cioè, i neri sono più fortunati di noi, più perché non si devono truccare. Cioè sono già truccati. Hai capito? Perché ho detto che doveva appartenere al passato. Hai capito? Vabbè, però lascia bene. A parte che è sbagliato, perché io è pieno di negri che conosco che si truccano tranquillamente. Negri, in che ho detto, senso, negri. Ma si truccano in che senso? No, si truccano, cioè si truccano con, normalmente si fanno e si mettono il rossetto, le donne. No, ma nel senso che non è vero perché uno è scuro che poi non si trucca. Non è vero, è sbagliato. Non è che adesso non ho fatto uno studio, ma lei perché va nel dettaglio? Ma perché lei va nel dettaglio di questa cosa? Questo che io non capisco. Perché lei analizza una stupidaggine detta dalla signora Santelli. Però l'hanno attaccata per razzismo. Ma è ma una non gaffe. È... Ma vabbè, quando uno fa uno scivolone, deve dire: mi dispiace, ho fatto una gaffe. Vabbè, ho capito, ma non si può attaccare. Ma adesso la cosa assurda è che lei ci sta spiegando che ci sono alcuni negri che si truccano. Cioè, lei entra nel merito della discussione, certo, della gaffe. Certo. Lei entra nel merito perché della gaffe. Perché è una stupidaggine, non è una battuta razzista, è una stupidaggine colossale, anche nel merito se uno vuole. Cioè non è vero che i neri sono più negri che dir si voglia, sono più fortunati di noi perché non si devono truccare. Non è vero, anche le donne nere sono truccate, truccatissime. Signora Santelli, guardi bene di che parliamo. Ma dopodiché chi la attacca per razzismo è un cretino peggio della cretinata della Santelli. Alle falde del Kilimangiaro, Good Hess Hall è tornato a colpire il tuo amico Good Hess Hall, cioè signor Buonanno. Buonanno, no, l'onorevole Buonanno. Buonanno con due N, no, con una N. Sbaglio Buonanno. Adesso lo provo a scrivere. Ogni volta aspetta, ti sbagli. Adesso provo a scrivere. Non onorevole è on, no? Punto. Sì, on. Buon nome di battesimo suo, eh? Buonanno. Buonanno. No, due N, ah, non anno. No, scusa, good as all. Ah. Che cosa ha fatto oggi alla Camera? Ha detto che quelli di colore, i rifugiati che arrivano in Italia sono più privilegiati di alcuni italiani, per esempio i disabili. E mentre lo diceva si è colorato la faccia di scuro alla Camera, no? L'ho vista la ghechina. Perché ridi? L'ho vista la ghechina. Perché ridi? Perché ormai deve mettere la musica non dei Siamo Vivatori, del circo. Quel signore lì è uno dei più grandi esponenti, non del Cirque du Soleil, che è una cosa meravigliosa, ma di quei circhi di provincia, quei clown che non fanno neanche più ridere, che sono tristi, vergognoso, razzismo sporca. Spero che quel colore nero che si è messo in faccia sia lucido da scarpe che gli corroda la pelle. Ma ti rendi conto che insulto in un'aula di Parlamento dove dovrebbe celebrare la democrazia? Vabbè, ma il rispetto. Ma... non è il circo, non è il teatro, non è il cantastorie, non è il circo selvaggio della il circo padano. Forse era uno, forse pensava di essere nel famoso circo padano, perché lei non lo ricorda Cruciani quando anni fa c'era il dio Po, c'erano le foci o le feci del Po, non mi ricordo, c'era l'ampolla, il rito dell'ampolla e c'era anche il circo padano. Lei non lo ricorda? Il circo padano. Fatemi sentire. C'era buona. Il circo padano anni fa, te lo giuro. Chiedi fatemi al tuo amico buona. Salvini. Allora io penso, signor ministro, che alla fine forse in questo paese per ottenere qualcosa bisogna essere un po' più scuri. Allora, se io dico siamo più scuri, allora tutti noi ci trucchiamo, ci facciamo un po' più neri e quindi poi andiamo in giro tutti truccati di nero e diciamo anche noi vogliamo gli aiuti che si danno agli extracomunitari, anche noi vogliamo gli aiuti che si danno a quelli che arrivano all'ultimo minuto e che magari prendono la pensione rispetto agli italiani che non la prendono, perché qua in Italia ci sono anche quelli che prendono la pensione senza aver lavorato neanche un minuto. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, quello più basso, quello più basso. Ministro, che ne pensa di questa lista fatta dalla Padania con i suoi appuntamenti? La Padania chi? È l'ennesima forma di, insomma, irriverenza, come possiamo chiamarla, da parte della Lega Nord. Che ne pensa? Non so chi sia la Lega Nord. Però comunque è una forza politica a tutti gli effetti, quindi bisogna farne conti, no? Fanno, non sapendo di chi si tratta, praticamente saranno cittadini, fanno quello che vogliono. Le palle del chi li mangiaro. E ci sta parola di negri che ha inventato tanti balli più famose, l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Oh, signor Bitonci, Bitonci, beh, devo dire che... Altro esponente del Circus Padano. Vabbè, smettila con questa storia. Non c'è razzismo. Non c'è razzismo perché non c'è in questi giochi. C'è semplicemente coglionaggine, infatti. Cioè, in questa qui c'è semplicemente coglionaggine. Appartiene il Circo Padano. Verifica se non c'era il Circo Padano. Bitonci e... Buon anno. Buon anno con due N. Oh, se puoi interrompermi. Sono del Circo Padano. Circo Padano in Parlamento. Bitonci, che credo e sia ora, che è capogruppo. Bitonci. Che è capogruppo alla Bitonci nel cerchio di fuoco. Dice non abbiamo mai dato fuoco alle macchine. Ora, questo pure ce lo doveva specificare. Ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. Però lei si ricorda nella storia della Lega una manifestazione violenta, una volta che abbiamo dato fuoco a un'auto durante una manifestazione, picchiato qualcuno? Però, mai ma perché noi le battaglie le facciamo, può esserci anche una parola in più e lo più basso. Bitonci è lo stesso capogruppo al Senato, mi correggono, che ha detto che ci opponiamo alla negritudine. Ma uno, scusa, ma ha il diritto di opporsi alla negritudine, di usare le stesse parole che usa per esempio il professore Sartori, che usano altri? Ha il diritto di opporsi al fatto che l'Italia diventi un paese meticcio? Io sono contrario a questa cosa, ma c'è chi ha il diritto di opporsi anche a questa cosa. E dai, siamo i Vatusi, gli altissimi neri. Non venirmi a dire che è italiana, non lo è. Ma questa è la signora di ieri sera, signora. Understand? Anche signora di Udine dice delle cose terribili. Documentatevi, Crivio. Ma non che non molestate. Ma era arrabbiata? Sì, ero un po' arrabbiata, vabbè, d'accordo. E ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi. A proposito della vicenda De Girolamo, danno a Mastella il tapiro d'oro. Il tapiro d'oro per i messaggi che ha ricevuto. Uomo, sei un uomo di merda. Sei una merda e poi sei un uomo di merda dalla De Girolamo. Non so se sia più grave il Mastella. Primo insulto. Questa secondo me è la cosa più grave che fino adesso ha fatto la De Girolamo. No, eh. Sì, la reazione di un ministro che si mette a rispondere a Mastella con gli SMS e dire sei un uomo di merda. Ma che, perché lo fai? Vabbè, questo di, ma perché lo proprio fai? Lei che è il profeta e il cantore della pancia. Ma ho capito, ma io lo posso fare. Ma che non c'entra? Non è che, De Girolamo. Ma adesso perché era in veste istituzionale quando mandava quel paese? Beh, certo, il ministro sei sempre Mastella. In veste istituzionale. Ho capito, ma era un messaggio privato che non attiene alle inchieste, alle cose. È colpa di Mastella di averlo rivelato. No, ma sì, ma dai, voglio dire. Fammi sentire Staffelli, dai. Ma lei come ha risposto a questo? Io poi ho detto, guarda, eccetera, io mi sono soltanto... Ce lo legga lei il messaggio della sua risposta. Fai quello che credi, sono dispiaciuto e ho risposto a domande su ciò che era apparso e come a me non è stato perdonato nulla, questa è la sostanza. Dopodiché dico, una che esordisce però, sei una merda, beh, si commenta da sé. E lei mi risponde, hai ragione, avevo dimenticato uomo, cioè uomo di merda. No. Una cosa, poi parleremo di Renzi più avanti, ma Renzi chiede indirettamente, perché non ha nemmeno il coraggio di dirlo, di dirlo in faccia, le dimissioni alla Di Girolamo, esaltando la idem che si è comportata bene, e il suo uomo indagato, per me non si deve dimettere nessuno, né la Di Girolamo né la idem, e il suo uomo indagato a Palermo, perché non lo manda via dalla segreteria subito, se il criterio è lo stesso, cioè essere indagati? Mandi via pure Faraone, no? Mandi via anche Faraone. Abbiamo un ospite. Beh, lo introduco. È collegato per telefono, sai, è la radio questa qua. E lo introduco in questo modo. Lo introduco in questo modo. Con una frase. Anche che la radio con una frase. Che lei ogni tanto se lo dimentica. Con una frase. Chi c'è, una prostituta? No, ma che prostituta? Un trans che ha invitato. No, non c'è un trans. No, no, scusi. Chi ha invitato qualche animalista? Qualche clown che ha invitato. Di Formigoni. Non c'è nessun clown, una persona serissima. Formigoni. Formigoni che dice Berlusconi non conta più niente. Sentiamo. Dal punto di vista del governo, Berlusconi è fuori. Il parere di Berlusconi conta zero dal punto di vista del governo. Una parola e me ne vado. Conta il parere di Renzi. È ovvio. Allora, scatenato su Twitter contro il nuovo centrodestra, il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, buonasera. Ben trovati, ciao. Come andiamo, professore? Bene, bene. Tu? Alberto, caro Alberto. Bene. Come è stato tu? Ma tu che c'è mica il medico di tu, mica fra il veterinario. Allora, no, scusa, era una premessa, no? Che sì, non dovevamo prestare il fianco a nessun retropensiero che com'è? Si conduca al mio paziente più noto. Retro... sa che lei ormai, professor Zaghino, buonasera intanto. Sa, professore, lei in questo tono ha usato il tono di Berlusconi. Sì, sì, infatti. Non rispondo a domande. Un misto tra Ghedini e Berlusconi, sembrava, Zangrillo. Sono state libere espressioni di pensiero comune di un comune cittadino. Ah, lei sì, dice, beh, quando lei dice però, scusa, bisogna che no, far sparire con un'operazione NCD, quello è... No, non ho detto questo. Beh, io ho utilizzato una metafora chirurgica, no? Dovuto al fatto che qualcuno ha sottolineato che lo Stato dovesse mettersi a dieta. Sì, cioè Alfano. Ecco, e io credo che praticamente, usando la metafora, se mettiamo a dieta lo Stato, sì, purtroppo vengono sempre colpiti o i settori produttivi o soprattutto il futuro. Però scusi, fossi chirurgo eliminerei l'NCD, dice lei. Ecco, posso dirti qual è il futuro? No, ma lo elimineresti l'NCD con una bella operazione? No, ma io ho usato la metafora dicendo quando uno vuole diminuire di peso, no, decide quale parte non essenziale dello stomaco, per esempio, bypassare. Ecco, noi stiamo, per esempio, bypassando il futuro del paese, che è la cultura. Vabbè, adesso noi possiamo metterci a parlare di cultura, Alberto. Come no? Vabbè, per esempio. No, io però da te voglio sapere una cosa, da medico, no? Da medico e da esperto anche di relazioni tra pubblico e la politica, gli ospedali, eccetera. Secondo te, la De Girolamo si deve dimettere? Ma vedi, non mi fare entrare in... come dire, in argomenti che non mi devono toccare. Ma da cittadino, no? Da cittadino, per quello, guarda, che leggi, per quello, che leggi. Quello, allora ti dico, allora, sempre collegandosi a quello che poi è successo. Ma tu parli come tu parli da come Alberto Zangrillo, mica il medico, certo, personale di Berlusconi. Ma io ti dico, appunto, guarda, ci arrivo. Ti do soddisfazione. Allora, collegandoci a quello che è successo su Twitter. Io che cos'è che, per esempio, ho contestato a Formigoni quando appunto mi risponde dicendo se non fosse per noi il potere sarebbe andato alla sinistra, no? Io ho detto, guarda, a me del potere non me ne frega nulla, a me importa che le cose siano fatte bene. D'accordo. Allora, a prescindere dal fatto che non entro nel merito che le esternazioni private in domicilio privato possano, come dire, non costituire oggetto di, però è un modo di esprimersi che la dice lunga sul fatto che il passaggio tra essere al governo, comunque contare qualcosa ed esercitare il potere è praticamente automatico e i cittadini italiani non hanno bisogno di essere rappresentati da chi vuole esercitare il potere. Cioè, secondo te, tutela... ha espresso arroganza in queste... Assolutamente, arroganza, è un modo arrogante, è arrogante il modo con cui Formigoni mi risponde dicendo: caro professore, guardi che se non era per noi il potere andava alla sinistra. A me non frega nulla di dove va il potere. Senta, non ci deve essere il potere. Senta, siccome lei non ha in grande simpatia Alfano, questo mi sembra abbastanza chiaro, questo è risaputo, diciamo. Questo è abbastanza risaputo. Se lei dovesse scegliere tra votare Renzi e Alfano, chi voterebbe? No, ma io non, guarda, spero che non ci si trovi in una situazione. Non c'è diciamo che non c'è più Berlusconi, non c'è più, nel senso che non c'è più politicamente. C'è bisogno di scegliere tra Renzi e Alfano. Lei chi sceglie? Ma non è difficile da rispondere. Ma, guarda, ti dico la verità. A simpatia, a simpatia. Avevo, come dire, nutrito proprio per il fatto che Renzi poteva farsi interprete proprio di un movimento che metteva appunto al centro questi concetti, una certa simpatia verso appunto un modo di procedere nuovo. Invece... Okay. Adesso a me sembra che invece, come dire, tutto si risolva nella solita questione di chi fa cosa, di chi occupa quella sedia, di chi... Per cui in questo momento io spero... paradossalmente che non si vada con queste con questi equilibri a doverci esprimere, perché sarei estremamente a disagio, ecco. Cioè tra Renzi e Alfano non sapresti chi votare? Posso dire chi è che escludo? Chi è che escludi? In assoluto Alfano. Non voterei per Alfano, certo. In assoluto non voteresti per Alfano, mai. Non sceglieresti mai Alfano. Traffico. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi, eh? Questa resta una delle barzellette al top di Berlusconi. Continua a non far ridere. No, questa è buonissima, questa è buonissima. È con noi Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi. E, senta, secondo lei l'NCD, il nuovo centrodestra di Alfano, è nato solo per il potere? Ma vedi, guarda, allora permettimi di appunto non fare per un attimo il medico, no? Allora qual è il grande problema, no? L'anacronismo di continuare a separare la destra e la sinistra, no? Anche perché dobbiamo considerare una cosa: c'è sempre qualcuno che non conta nulla. Che non conta nulla, sì. Ma che è in grado di fare l'ago della bilancia, spostandosi secondo le conseguenze un po' a destra e un po' a sinistra. Dunque? Quindi io credo che Alfano rappresenti in questo momento, o pensi di poter rappresentare, questo ago della bilancia che si sposta a seconda di, e quindi non va bene. Secondo te il potere per il potere, cioè non c'è dietro nulla? Non so se non c'è. La sinistra ha più dignità, questo Renzi ha più dignità, questo voglio chiederti. Ma no, ma voglio dire, almeno chi ha delle idee di un certo tipo, e soprattutto chi le ha mantenute in modo fermo in quella direzione, acquisisce una certa credibilità. No. Qui invece ci troviamo ad avere a che fare con delle persone che appunto ondeggiano come ondeggia l'ago della bussola quando non sai come orientarlo. Ondeggiano. Cioè, ma pensano solo alle poltrone? Non sei d'accordo. Pensano solo alle poltrone, alle poltrone, agli scranni, ai dicasteri, all'esercizio del potere. Senti, ma io posso chiederti una cosa, ma la vicenda di Alfano, qua dal punto di vista medico... Sì, ma non l'ho seguita né dal punto di vista medico né dal punto di vista politico. No, dal punto di vista medico. Quanto ha danneggiato la salute di Berlusconi? Ma assolutamente nulla, perché è uomo forte e quindi, come dire, stava maturando un'evidenza di questo tipo e a un certo punto ha preso una decisione, ecco. Io credo, ma non è stato danneggiato dal punto di vista della salute, da questo tradimento, da quello che tu chiami tradimento, perché è stato un tradimento, no? Immagino. Ma sì, certo, dal tradimento nasce l'amarezza, nasce la consapevolezza. Mi piace dire una cosa, adesso vedi, oggi io non volevo parlare di Berlusconi, però queste emozioni, professore, e allora ti dico questo, perché questo te lo posso dire da medico e da uomo che gli è stato vicino. Ecco, sicuramente pur nell'amarezza non serbano ancora, no? Perché non riesce appunto a essere... Ma ecco, ma questo perché? Perché è molti dicono è comunque segretamente innamorato di Alfa, innamorato, diciamo, politicamente. Cioè, lo vede sempre bene, cerca sempre di avvicinarsi a lui, è vero o no? Non sono mai sceso, diciamo, su questi dettagli di questo tipo, ma non credo, lo escludo. Ti piacerebbe se Totti diventasse capo unico di Forza Italia, oppure un passo azzardato? Beh, adesso parliamo di politica, oggi ormai siamo qui. Chissà, chissà quali cose. Allora, ti voglio dire, io lo conosco molto superficialmente, so che è una persona che fa molto bene il suo mestiere e quindi è apprezzato. Ora, evidentemente anche in questo caso si è speculato e si è voluto, come dire, dare un'accelerata, evidentemente attribuendogli un ruolo che non era quello che era stato disegnato per lui. Ma perché non ti candidi anche tu? Perché io non voglio fare questo tipo di mestiere, però mi piace non sottrarmi, diciamo, ad esternare quella che può essere la mia idea e che ha il valore della mia idea. Ma Berlusconi te l'ha chiesto? Limitato. Te l'ha chiesto? Me l'ha chiesto più di una volta, ma Io ma lo escludi totalmente? È stato felice della mia risposta negativa. Lo escludi? Beh, un medico parlamentare dopo gli avvocati parlamentari sarebbe eccezionale. Ma ce ne sono così tanti? Senta, no, un medico di Berlusconi parlamentare dopo gli torniamo avvocati. Alle cose importanti. Torniamo alle cose importanti di giornata. Dudu. Cioè, lei, la pet, sa che esiste, no? Dal punto di vista scientifico, la pet therapy, no? Allora, per calmare i bollenti spiriti di Berlusconi rispetto anche al Fano di queste vicende, il ruolo di Dudu ha assunto, come dire, un ruolo da... Questa però è una domanda interessante, no? Non è una brutta domanda, ha assunto però, un ruolo Alberto. Da pet therapy, perché il tradimento di Alfano, Cicchito che se n'è andato, cioè sono traumi dal punto di vista emozionale. Dudu... Non è una cattiva, cioè è una domanda scherzosa, però in realtà Dudu ha attenuato un po' di amarezza, cioè serve questa pet therapy, funge da questo punto di vista, funziona. Dudu in sé. Credo di sì, dai. Ma come credo di sì? Lo sai, l'avrai verificato dal punto di vista. Cioè, gli animali. È un cane molto simpatico, dai, Però voglio dire, Dudu può essere un sostituto di Cicchito? No, questo è chiaramente una battuta. No. Questa è una battuta brutta che fa va ritirata. No, ma può essere un calmante per Berlusconi, certo. Cioè, può essere un motivo di sollievo anche dal punto di vista dell'umore? Ma certo, ma come no? Ma come no? C'è anche c'è l'ipoterapia, c'è tutti gli animali, diciamo, domestici hanno un ruolo di questo tipo. Tutti gli animali domestici, soprattutto visto che me lo stai facendo venire in mente, sono dotati di una caratteristica che all'uomo spesso manca, che è la fedeltà. La fedeltà. Sì. Ah beh, certo, Dudu più fedele di molti suoi NCD. Il cane ci dia una lezione straordinaria da questo punto di vista. Sicuramente più fedele di Alfano. Beh, vabbè, certo. Anche più fedele di te, credo. Quello perché Cruciani è uno dei vostri, non so. No, ma ancora più fedele di te, professor Zangrillo. Ma che sì, come per prendermi in giro. Mascherato il ragazzino. Ma chi abbiamo dato più volte a Berlusconi, un amico mistero. L'ho detto più volte e lo dico. Senta, professore, lei che lo sa. No, però è interessante. Perché lei è medico anche di Cruciani, no? Ma non è vero, sono andato da lui qualche volta. La prostata di Cruciani, signor Zangrillo. Com'è? La prostata, tutto trasparente. Ma sei pazzo? Com'è la prostata di Cruciani, Zangrillo? L'ho più volte solleticato sul fatto dove l'ha solleticato, che lui ha meno anni di me. Dov'è che l'ha titillato? Ha più possibilità di allenarsi di me, però siccome so che è un runner straordinario, mi piacerebbe fare una maratona con lui, non escluso che lo faccia. Lascia la maratona. Tra la prostata di Berlusconi e quella di Cruciani, è più fresca quella di Berlusconi? Diciamola tutta. Però Dudu a Berlusconi fa meglio di Alfano, sì, diciamo la verità, questo si può dire. Io ho detto che in assoluto il cane ha questa straordinaria caratteristica, certo, che è la fedeltà all'uomo, che non deve essere presa per insipienza, idiozia da parte dell'animale. Per cui dopo il tradimento di Alfano, per lui c'è questa fedeltà. Diciamo che c'è anche questo, diciamo, surrogato di Dudu. Straordinario. Surrogato di... Ma lei proprio Alfano non lo può vedere, eh? Diciamola no, tutta. Non... Sì, Alberto, non lo puoi vedere, dai, no. Su, non lo puoi vedere. Se vedere, su un letto di ospedale, nulla di grave. Non mi sono mai... espresso con dei personalismi, cioè io esprimo dei concetti che sono davanti agli occhi di te. Che il tradimento non lo puoi sopportare. Il tradimento è un altro tradimento, l'infedeltà, l'opportunismo, il calcolo politico fine a se stesso. Sì. Queste cose qua sono delle cose fastidiose che gli italiani non tollerano. Io non tollero perché come loro e quindi. Che vuol dire? Dico per assurdo, sempre per assurdo, professor Zangrillo. Si trovasse in corsia, che so, così improvvisamente per un mal di denti. Nulla di... Alfano e Berlusconi, chi curerebbe prima? In base al giuramento di Ippocrate, no, un mal di denti, nulla di che, un ascesso. Alfano e Berlusconi, no? Hanno lo stesso codice rosso. Lei, esatto, chi cura prima? Siamo in tanti e quindi c'è solo lei, professore. Chi cura prima tra Alfano e Berlusconi? Codice rosso per un mal di denti. Vabbè. Comunque, Berlusconi è il capo degli infedeli da questo punto di vista. Non è che ha fatto della fedeltà, no. Nei rapporti privati, nella polla sua. Ma che c'entra quello? È un'altra cosa, sì, è un'altra cosa. Comunque la prostata di Cruciani era visitata ed è perfetta. Non mi ha mai visitato la prostata. Mi ha visitato una sola volta, avevo bisogno di una cosa, ma era una stupidaggine. Ma l'hai detto tu, perché io ho sempre rispettato il segreto. Ma nemmeno lui, tra l'altro, mi ha consigliato un medico una volta. No, ha detto che ha fatto proprio l'esame della prostata. Mi ha consigliato un proctologo. Ma poi io non ho problemi alla prostata. Ma non ho nessun problema. Non si poteva dire alla radio. Ma no. Ciao Alberto, a presto. Ciao. Buon lavoro a voi. Un abbraccio. Giornale radio. Ciao Simo. Sì, caro Dell'Utri, siamo ancora qui. Siamo ancora qui. Sopravviviamo e lottiamo insieme a voi. Prova. Attenzione, attenzione, amico mio. Ma come attenzione, amico mio? Understand? Ma come understand? Understand? Ma quale understand? Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare! Questa era per te, la signora Bianca da Udine. Non mi sembrava Stefano Folli questa. La signora Bianca da Neanche Udine. Carruba mi sembrava. Era Carruba. Incazzatissima per te, perché dici che vuoi dare il posto agli immigrati, vuoi distribuire case a destra e a manca. A chi ne ha il diritto? Eccetera, eccetera. A chi ne ha diritto? Non venirmi a dire che è italiana! Non è! Ma chi è? È italiana come te! È italiana come te! È più di te! Perché falso se c'entra, non farmi parlare male! È più rispettosa di te, la Chien, più italiana di te! Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare! Vabbè, salice, non stare lì così, mettiti comodo. Oh! Sull'erba molto spesso tu si corica, corica. C'è una delegazione di parlamentari, Camera e Senato, che potrebbe partire per l'India. Per l'India. Vabbè, questo... Dove non bastano, evidentemente, ai politici gli ambasciatori, i ministri degli esteri, i sottosegretari agli esteri. No, per risolvere la questione dei Marò, cioè per portarli a casa, per portarli a casa o comunque evitare la pena di morte, una pena detentiva lunghissima, i deputati e i senatori decidono di andarsi a fare una vacanza in India. No, non direi così. Sì, di passare qualche giorno in India. Ora tu dimmi una cosa, understand? Che bisogno... No, che c'entra, aspetta, no. Che bisogno c'è, questa è una cosa seria, che bisogno c'è di andare a fare una scampagnata in India per 2 o 3 giorni a spese nostre, per fare cosa? Cioè, no. Per parlare con chi? Ma perché non si parlano via Skype? Questo lei non... Ma cosa c'entra? Ma sì, per far sentire la presenza delle istituzioni italiane in India. Serve? Ma a cosa? Questa non è ci una stupida... ministri. Fanno cose molto più inutili. Ho capito, ci sono c'è il ministro degli esteri, la signora Bonino, e poi ci sono anche deputati e che senatori che vanno lì a far pressione per far vedere che tutto il paese, tutta l'Italia è là. Ma con i nostri Marò non hanno un cazzo da fare, per cui vanno in India, non hanno niente da fare. È la commissione esteri, è la commissione. Senti, lo propone la russa. Senti, vabbè, insomma, è intelligente, no, ma questa dico, cosa mica ho detto niente, lo propone la russa. Secondo tra me gli la altri russa, anche 5 Stelle russa, sono d'accordo. La russa, questa che non è una signora la russa, ma è l'onorevole la russa, questa volta dice una cosa giusta, fa una cosa, cioè giusta. Tu manderesti deputati e senatori a non risolvere un cazzo in India, perché vadano meglio che in Italia, meglio che stare qui in Italia, vadano in India. Hanno più ruolo lì, più da fare là. Noi siamo pronti a sommare il nostro sforzo a tutti coloro che in sincerità li vogliono far tornare. Certo, immaginare 10 missioni, la nostra, quelle di 5 Stelle che vanno in India a fare passerella, no. Anzi, chiedo ufficialmente che il presidente Cicchitto della Commissione Esteri formi una delegazione ufficiale della Camera per andare in India a capire che succede. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Rientrato in Italia il Presidente del Consiglio, tra i partiti i nodi delle riforme e la trattativa sulla legge elettorale. Domani nuovo colloquio con il segretario del PD. Nel Partito Democratico i bersaniani chiedono a Renzi di non incontrare Berlusconi sulla legge elettorale. Il segretario vede Alfano, domani direzione del PD. Sulla legge elettorale per noi le proposte del PD non esistono, dice Casaleggio nell'incontro con i parlamentari. Dai 5 Stelle mozione di sfiducia contro il ministro Di Girolamo. È polemica dopo la pubblicazione degli impegni del ministro Kyenge sulla Padania, che non si scusa. Salvini incontra Marine Le Pen, Cécile Kyenge ospite del TG3. Le assicurazioni auto italiane sono le più care d'Europa, oltre 230 euro in media in più, ma le compagnie dicono è colpa di tasse e frodi. La compagna del presidente François Hollande, Valérie Trivaillé, si sfoga. Sono stata umiliata davanti alla Francia. E la Gaillet querela il settimanale Closer. E 40 anni fa il debutto in TV di Happy Days, l'indimenticabile serie con Fonzi e la sua banda di amici, trasmessa poi in Italia dal 1977. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda il rom. Servi di Roma fuori, quando vedi uno di colore che corre fuori dalla metropolitana. Tu inseguilo perché sicuramente ha rubato qualcosa. Buona Padania a tutti. Guarda oltre i monti. Guarda oltre i monti. Non permettere. Inseguilo un po' ovunque. Perché quest'uomo di colore sicuramente non corre al lavoro, ma corre con il tuo portafoglio. Sali Padania, sali in metro, controlla se ci sono dei rom o delle persone che cantano con la chitarra. David? No, no. Lega. David? No, no. Figlia della libertà. Lancia una banana alla Chiang. Figli Roma fuori. Questa è la nuova Lega 2.0. Lanciale una banana. Guarda, e guarda avanti. Questa è la Lega 2.0. Però Matteo Salvini al Parlamento Europeo viene pizzicato da un deputato piuttosto, come dire, ciccione. Non sia un'offesa, però. Non sia un'offesa. Ma perché vuoi negare che il signor Tarabella, deputato europeo socialista belga, sia ciccione? Ma che c'è, come se. Che c'è, come fatto fisicamente? Come dire, Mercù ha gli occhiali! E chi se ne frega di Mercù? Altro che ha gli occhiali. No, no, no, è ciccione, però. Il signor Tarabella è un ciccione, un bel ciccione, ma è un bello tosto, pugnace, il quale dice. Caro Salvini, sei un fannullone perché non ti sei mai presentato qui a lavorare con noi. E lui abbozza e dice: sì, è vero, me la prendo, è vero, bisogna lavorare di più. Senti. Allora, è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è, è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Signor Salvini. Onorevole Salvini, prego, a facoltà. Grazie, io non me la prendo. Ci sono colleghi di sinistra che querelerebbero per dichiarazioni di questo tipo. Ci sta, ci sta. Ci sta il dissenso, ci sta il consenso, quindi. Padania bella e libera, guarda avanti. Sali Padania. Non è un invito ai cacciatori padani a cercare il leprotto Chienge, no, da quello che sento è una rubrica di servizio. Ma questa idea è salviniana, io non so se l'abbia avuta lui, però è nello spirito, cioè interpreta bene il nuovo spirito, diciamo, di giovanile, sbarazzino e anche un po'. Che supera la vecchia politica, le ampollosità idiote e conformiste della vecchia politica. Lo definirei un'iniziativa futurista. Questo governo pensa solo a durare, ma tu non devi durare. No, no, tu devi fare. Io non voglio aspettare, voglio fare. Del giorno, la rezzata del giorno. Beh, e riprendiamo una cosa che ha detto ieri Renzi durante queste sue chat, no? Questi suoi colloqui col computer in cui non si capisce niente, in cui in realtà non dice mai una parola chiara. Mai una parola chiara. Per esempio, ha detto che i sottosegretari devono andare a piedi, no auto blu. La grande originalità. I sottosegretari non devono avere l'auto blu. Bah. Tra l'altro, secondo me, una delle cose fondamentali da fare è perché, per esempio, il sottosegretario deve avere l'auto blu. Ora, appena arrivato Lotti in sala si preoccuperà subito immaginando di come si fa, si verifica con i sottosegretari. Ma perché un sottosegretario deve avere l'auto blu? Già ce l'ha il ministro, ma perché il sottosegretario? Il sottosegretario, va a piedi, che problemi c'ha? Oppure va a macchina. E lo inseriremo in impegno 2014, così abbiamo anche altri voti. Chiede indirettamente, perché non ha il coraggio di dirglielo in faccia, le dimissioni della De Girolamo, esaltando lo stile della Idem, ma tace sul suo uomo. Ancora oggi non sono arrivate dichiarazioni sul suo uomo faraone, che io appoggio, perché finché uno non è accusato, a parte accuse gravi, mafia eccetera eccetera, finché uno non è condannato non si capisce per quale motivo al mondo si debba dimettere. Signor faraone, nella sua segreteria, su cui non dice una parola. Invece, secondo lui, la De Girolamo, che non è nemmeno indagata, mentre Faraone è indagato, dovrebbe dimettersi. Effettivamente la Idem si è dimessa. La Idem si è dimessa dimostrando uno stile profondamente diverso. Bene, bene, dove andiamo? Andiamo, Carla da Torino. Buonasera, Carla. Buonasera. Dica. Allora, io ho 70 anni. Sì. Ok. E io mi ricordo negli anni 40 anni fa, quando qualcuno aveva paura che era un pezzo grosso, girava con tre o quattro gorilla. Si chiamavano gorilla allora le guardie del corpo. Allora? Se la signora Schenke ha così tanto con la Padania perché dicono che ha paura che lei vada a fare i suoi comizi, allora si prenda 4-5 gorilla, visto che i suoi uomini sono dei gorilla belli grossi, e si fa proteggere. Scusi, non ho capito niente. Secondo lei la Chieng, che peraltro credo come ministro abbia già una guardia del corpo, si dovrebbe prendere dei gorilla perché? Ma dei gorilla veri? Cioè dei gorilla quelli... Ma dei gorilla, quelli del suo paese, quelli belli, neri, grandi e grossi. Io non sono razzista, però tanti anni fa, quando uno girava con la guardia del corpo, veniva chiamata gorilla, nessuno ha detto a nessuno razzista che lo chiamavano gorilla, perché era così che si diceva. Adesso se lei va a dire alla Shen che è intorno 4-5 gorilla, noi italiani, piemontesi, ma di che sta parlando noi questo? Siamo razzisti. Vabbè. Allora la legge non era razzismo, adesso è razzismo? Vabbè, Stefano da Firenze, dai, questo ha bevuto. Un po' di Barolo ha bevuto. Stefano, dica. Pronto, ciao. Dimmi. Sì, dicevo, io sento la trasmissione da molto tempo e molto volentieri. E soprattutto apprezzo il tuo nichilismo, sangue e merda. Allora? Però ieri sera Terenzo invece mi ha fatto incazzare, perché a parte abbiamo avuto la conferma che non si può toccare la lobby ebraica di cui lui fa parte, ma ieri sera è stato anche maschilista, perché ha mandato quella signora che totalmente di fuori, gli ha detto vai a fare il sugo. A casa, sì, quella era una battuta come tante si scappano perché te sei veramente un fascista rosso. Eccolo. Con il portafoglio a destra. È questo, e come te purtroppo ce ne sono tanti. E quanto ci ha messo sono dei bei fascisti. Fascista rosso con il portafoglio a destra. Rispondi a questo ascoltatore. Attacca, che fai? Subisci, incassi, che fai? Perché mi metto a discutere con questo. Incassi, mi metto a discutere di che cosa? Del fatto che ho fatto una battuta a una signorina, a una signora, a una signora così aggraziata. Perché le battute sugli ebrei non ti vengono. Stai calmo, perché c'è una differenza tra le battute razziste e che incitano all'odio. E anche quelle contro i rom, quelle contro gli omosessuali, io anche quelle detesto, caro il mio amico, se ascolta la trasmissione da tanto. Mi meraviglio che non ti danno un incarico politico in Toscana, dove ce n'è molti come te. Strano, probabilmente si fa il La informerò. La informerò. Torni a fare il sugo. Onorevole Gazzi, allora come Gazzi? Urina in campagna e anche al mare. Vogliamo risentire questa cosa della Santelli che viene attaccata perché ha detto una stupidaggine, non una cosa razzista, che i neri hanno la fortuna di non doversi truccare rispetto ai bianchi. Lei ha giusto dell'orrido. Per esempio, ci sono gli atleti neri, soprattutto le donne, che sono truccatissime. No, ma perché evidentemente alcuni politici non guardano quello che accade, cioè sono talmente distanti dalla realtà. Perché vai nel merito? Ma non è perché come giustificarla? Non intendeva quello. Non intendeva questa sofisticata ricostruzione che stai facendo degli atleti di colore che si truccano. Ma no. Non c'è da giustificare, c'è semplicemente da dire basta! Basta! Iole e Santelli, quanti sono? Ma che ha fatto? Scusa, non ho capito. Che ha fatto? Ha fatto una gaffe. Quando uno fa una gaffe dice ho sbagliato, scusate. Lei dice di no, come invece l'ha abbronzato a Obama. È una gaffe, battuta di cattivo gusto. Posso dire che devo contenere l'immigrazione, non aver nessun tipo di problema o comunque ritenere assolutamente normale che ci sia chi vive in Italia da 20 anni, è perfettamente integrato, poi magari ha la fortuna di non doversi truccare come noi che siamo, e quindi è più fortunato di noi, punto. Che vuol dire più fortunato? Io divento pazzo, come ti possono uscire certe cose? Perché non è che lo dice con razzismo, perché vedi che ride, eccetera. Questo è il punto. Ma non, come ti possono uscire? Come ti possono uscire queste cose? Ti escono perché hai fatto una gaffe, cara Santelli. Hai fatto una gaffe e devi abbozzare, dire scusa anche. Ma non ti fanno schifo queste storie che escono sui consigli regionali? Cioè, mi viene in mente, mi viene in mente una cosa, al di là delle mutandine, degli slip, di una consigliera dell'Italia dei Valori. Però l'igiene personale è importante. In Liguria, che avrebbe comprato Maruska Piredda gli slip, e li ha fatti mettere in conto alla regione. Però dalla Sicilia li avrebbe, diciamo, alla Liguria, a regali di nozze, gioielli, automobili personali, 97 indagati in Sicilia, borse Vuitton, delle cose incredibili, gioiellerie che vengono prese d'assalto con migliaia di euro spesi e poi messi in conto alla regione. C'erano troppi soldi le regioni. Federalismo, il ma non sarebbe meglio abolire le regioni piuttosto, ecco, che le province? No, ma bisognerebbe abolire questa classe, fare una classe politica più onesta. Ma c'è la tabula rasa. Cioè, il tema fondamentale è questo: non sono tanto le regole, perché le regole le fa qualcuno. Chi fa quelle regole troppi le fa soldi apposta per prendersi i soldi. Quindi è un problema di classe dirigente. Ma che ne dici di quest'altro? Il signor Angelo Cera, deputato dell'UDC, il quale? Angelo Cesa? Cera. No, Cesa è il segretario. Togli un S dell'UDC. Ma non è Casino il segretario. No, quello è il presidente, vabbè. Cera. Ma c'è sempre lui, non c'è mai il signor Cesa. Allora, Cera di Sera prende 13.000 euro netti al mese in Parlamento, 3.906 euro lordi al mese per fare il sindaco di un comune dove non dovrebbe essere sindaco, ma grazie ad una legge votata anche dal suo partito è rimasto a fare il sindaco. E poi un poco meno di 8.000 euro lordi come vitalizio da ex consigliere regionale. Lordi, però. Lordi. Dunque prende 13.000 netti, 7.000 lordi, vabbè, prende intorno ai 20.000. Sì. Intorno ai 20.000 al mese, però si lamenta. Perché? Sai perché si lamenta? No. Perché gli hanno sciolto il consiglio comunale. Allora si voleva incatenare, voleva fare una manifestazione davanti al Quirinale, capito? Una manifestazione! Angelo da Salerno, dai. Understand? Angelo, pronto? Dimmi. Dunque, senti, io volevo fare una piccola considerazione molto pagata su Parenzo. Volevo suggerirgli di trovare una via di mezzo quando parla, di non leccare troppo il culo e né di esagerare nelle cose, di trovare una via di mezzo che è molto più gradevole ad ascoltare. Io, come dice lei, non lecco niente, dico quel che penso, poi le può non piacere, e questo non è un problema perché è una trasmissione in cui si discute, le può non piacere, ma io non lecco, non, come dice lei, a nessuno per far favori a qualcuno, dico quello che penso. Aspetti. Hai capito? Primo, hai capito o no? Understand? Come dice quella? Le sto dando delle... Understand? Understand? Eccola qua. Non le sto dando del tu. Lei ha capito? Understand? No, understand? Understand? Guardi, non mi dica ha capito perché io faccio l'insegnante e non lo dico neanche ai miei alunni. E quindi understand? Se lei si... No, se non la smetta di fare il cretino, perché tanto... Guardi, con me non attacca. Allora, io volevo suggerirle molto pagatamente, non mi dire una persona che non voglio. Quando parla di lei contro quelli di destra si scaglia, dice tutte così, contro gli onorevoli si dice tante di quelle parole. Ma ho appena detto che la Russa ha detto una cosa giusta. Contro quelli, poi contro quelli, con quelli della sinistra si cala le brache. Ma quali brache? Ma se ho appena, ma se ogni volta che commentiamo le ultime sortite di Renzi diciamo le peggio cose, ma di che? No, ma lei ascolta la mattina, lo usa il cotton fioc lei la mattina? Renzi, scusi, no, io l'ascolto tutte le ma sere. Non usa il cotton fioc? Mi creda, mi creda, mi creda. Lei usa due pesi. No, io dico quello che penso. No, non mi dica questa, altrimenti. Ma io dico solo quando riguarda la comunità ebraica, diciamo, usa due pesi e due misure. Con il PD ogni tanto, soprattutto quando riguarda la comunità ebraica, quello sicuro. No, non mi interessa, io dico viva Diedonné, viva Diedonné, viva la libertà di Diedonné di dire le sue cose. Ma io ho la libertà di il comico francese. Ho la libertà di dire che mi fa schifo la sua comicità. Voglio semplicemente pregarla per un fatto di simpatia e di ascolto, di utilizzare una via di mezzo, c'è cioè una misura. Vabbè, abbiamo capito, Angelo. Vito da Lecce. Da Lecco. Da Lecco, vabbè, uguale, dai. Allora, scusami se mi sento un po' male, ma sono in via voce in macchina. No, ma via voce in macchina lo devi togliere, amico mio. Di che stiamo a parlare? Dai, su. Ma mi senti bene? Ma non me ne frega niente, togli quel viva voce maledetto. Ok. Ascolta, no, ma ok, un cazzo, non l'hai tolto. Cioè, ok, di che? Togli quel via voce oppure ti abbasso il telefono e non intervieni. Vabbè, ci provo adesso. Dai. Ma che vuol dire ci provo? Togli il viva voce, accosti un attimo, oppure te ne fotti della polizia, lo dico con grande rispetto, ovviamente. Tieni il telefono un attimo in mano e parli. Ok, mi sto fermando, state calmo. No, io sono calmissimo, che non mi va di parlare con un fantasma, no? Dai. Sì, no, non ti senti, ti sento peggio addirittura. Vito? Vito? Vito? Questo è matto, cioè la gente è matta, veramente. Vito, Stefano da Genova. Stefano? Allora, pronto? Vai. Allora, questo popolo di decerebrati, sì, ecco, è in piena decadenza. Fra una decina d'anni io credo che, sì, nonostante siano così razzisti, vedranno i cinesi che verranno a comprarci le case e ci cacceranno sotto i ponti. Va bene, poi? Perché questo popolo è in decadenza completa. Questo popolo è in decadenza. Questo popolo è in decadenza. I politici che vanno in India. Sì. Anche lei deve pasturare il suo popolo qui radiofonico, sì, però comincia a perdere i colpi, comincia a mischiarsi con loro, comincia a non capire dove è la ragione e dove no. Sì. Noi cosa contestiamo? La spesa di una delegazione politica italiana che sarà un miliardesimo. Non mi interessa, quella... è inutile andare in India. La delegazione di parlamentari italiani, ci sono i ministri, ci sono i sottosegretari, c'è Skype, ci sono le trattative, non conta nulla andare là a rompere i coglioni all'India. Ma perché parlate con la pancia, con questi... Ma io non parlo con la pancia, vabbè, allora va bene, allora mandiamo i deputati e i senatori in India che non è ma vanno a farsi la vacanza, l'ha detto lei, no? Giusto? Vanno a farsi la vacanza. Una vacanza, diciamo, una passeggiata in India. Perché ci prendiamo in giro? Una passeggiata in India. Ma certo, ma è chiaro che quando si parla alla signora di Udine che state rimandando in onda, è chiaro che parli così, perché gente che il cervello l'ha messo in frigo. Sì, invece tu, professore, maestro, professore. No, io sono una persona normale, ma essere normali oggi in Italia equivale ad essere i geni. E dunque? E dunque? Il livello ormai è talmente scarso qui a Radio Lega, PDL, fra l'altro, come possiamo ribattezzare la zanzara, non so se nota infatti chi chiama Radio Lega, sarà tua nonna innanzitutto. Sentiamo quello che dicono a proposito degli oranghi, è un continuo, cioè se apro Radio Padania non è peggio di la zanzara ormai, eh? Vabbè, ma quelli sono cazzi tuoi, a me non mi interessa quello che io stai dicendo, parlando del lei. Comunque, sì, ma io invece ti do del tu, dammi del tu anche tu. Del tu, ecco, benissimo, quello, ecco, se allora, senti Radio Padania sono affari tuoi. Tu fai un bel varietà, sì, però da 20 anni c'è gente che va in giro a dire cazzate, vabbè, e questa trasmissione sta perpetrando la tradizione. Sì, e quando la gente va in giro a dire cazzate, le cazzate diventano normali. Sì. Così oggi quello che vent'anni fa non si poteva immaginare di dire, abbiamo aperto le gabbie dello zoo. Sì. Cioè, la gente che chiama qui è gente dello zoo. Compreso tu. È gente che fra 10 anni sarà sottoterra. Compreso tu. Compreso tu. No, io no. Sì, sì, e tu io sei diverso dagli altri. Tu ti senti diverso dagli altri. Ti senti diverso dagli altri, vero? Non ti senti diverso? Diverso dagli altri. Io vedo questo paese sfasciarsi, capito? E allora dillo, ma ecco, qui hai la possibilità di dirlo. Lo sto dicendo. Ma hai la possibilità di dirlo tranquillamente. Ci saranno quelli che secondo te sono decerebrati che intervengono qui. Invece ci ma sei tu che innalzi il livello. Non riesco a mettere in fila due pensieri. Benissimo, tu invece alzi il livello, però parla, dilla qualcosa. Ma lo sto dicendo. Hai esordito dicendo che tra 10 anni siamo tutti finiti. Beh, il grande pensiero di Stefano da Genova, la grande riflessione. Certo, la grande riflessione, in Brasile, ma dai. In Sudafrica la gente studia, qui noi ci gingilliamo, capito? Ma noi con chi? La Lega, ma noi chi? A dare spazio alla parte più bassa, capito, della popolazione. Perché fa consenso, dà voti, no? Sì. Non lo so, pure fa audience in questo caso, no? Per la zanzara, giusto? Ma non lo so, può darsi che faccia un po' di audience, non lo so, non mi interessa. Cioè, io faccio siete voi, io anche, faccio un programma della radio, non faccio il. Non faccio il. Ha abdicato, si è venduta. Ma a me quando mi parla. Non sono io, è lei, il signor Cruciani, è la classe intellettuale di questo paese. Ma io metto mano alla pistola. Se mi dicono classe intellettuale, metto mano alla pistola. Mi chiamerà uno per uno. Rabbrividisco. Non c'è nessuno a voi. Come, scusa? Non vi ricorderà nessuno a voi. Pazienza, la storia vi darà il conto di quello che state facendo. No, ma noi non è che siamo... Siete un branco di falliti. Lei, signor Cruciani, fa parte di una generazione, sì, di intellettuali, di politici e di dirigenti falliti. Falliti. Brutti. Ma i dirigenti? Abbruttiti. Aspetta. Questo popolo è abbruttito perché voi siete brutti. Noi siamo praticamente si è instaurato un circuito vizioso, fra l'altro. Ma brutto sarà Riccardo Poli, oh, ma cosa si permette? Ma che c'entra Riccardo Poli? Ma no, non so, ma dice brutti, Lorenzo, brutti, anche brutti. È particolarmente simpatico perché, però, bravo, dire, ascoltatore, tieni almeno un po'. Cerca di mantenere la forma, quantomeno. Siamo magari la sostanza non c'è, ma la forma, perché la forma è importante. Bravo, eh? Questo è vero, io sono d'accordo su questo. Ecco. Su questo è vero. Stefano, la alzi il livello lei, allora, alzi il livello lei. Ma io lo posso alzare su 4.000 argomenti, quello che vuole. Sì. Ora mi stavo concentrando sul fatto dell'India. Sì. Cioè, è evidente che comunque se tu vai lì con dei ministri, magari, sì, e non lasci la cosa alla... la gestione al diplomatico che, sì, che è la via normale, magari fai sentire un po' più il peso di questa situazione. Fra l'altro le persone... i ministri già ci vanno e la delegazione di parlamentari che è totalmente inutile, ha capito o no? Ma dove vanno i parlamentari? Dove vanno? Dove vanno a incontrare chi? A incontrare che fare la manifestazione sotto il Parlamento indiano? Cioè trasferiamo le manifestazioni dall'Italia all'India? No, però se c'è una cosa che è far sentire la presenza dello Stato lì in questo momento, oltre all'uso della diplomazia del ministro chiacchiere, Bonino, parole, chiacchiere. È una delle poche cose buone che fanno la russa, meglio in India che in Italia. Guarda ma cos'è. Ma è un anno che s'allusti e questa gente qua sta dicendo che non si sta facendo niente per questa gente, per questi due Marò. Io tra l'altro sull'argomento non ho un giudizio, perché i Marò secondo me da un lato andrebbero difesi, dall'altro bisognerebbe capire, non si entra mai nei processi, non si sa mai di chi è la colpa, questo è vero, ecco, però è l'Italia deve fare la sua parte, diciamo. Vabbè, quindi la sua parte, caro Stefano, ti abbraccio, ciao, grazie, arrivederci. Ammazza la zanzara, schiaffeggiati la chiappa e la chiappa nera ti fa, balla la zanzara, vedrà che non ti punge per tutta la sera, ma non ti fermare, scusami, è paraculo, se ti fermi lei ti viene a pungere, batti le mani, battire forte, battiamo le finché non saranno tutte male. Oh, vogliamo sentire su Hollande quello che ha detto Vittorio Feltri? Cioè, ha detto una cosa assolutamente saggia. Ha detto che, insomma, se uno di noi riceve una telefonata o un invito da parte di una signorina come l'attrice con cui si è intrattenuto nottetempo e chissà quante volte il presidente della Francia, beh, come si fa a rifiutare un invito del genere? Come si fa? No? Mitico Vittorio, vai! Se domani sera la signora Julie mi facesse una telefonata per chiedere magari di essere invitata a cena, io ammetto che difficilmente resisterei, anche solo per darmi delle arie mi piacerebbe entrare al baretto dove di solito vado a cena la sera con la signora Julie, insomma. Addirittura all'ospedale, non sarà mica l'unica donna cornuta al mondo, Vittorione. Ma adesso fare tutta questa tragedia, anche la signora Valerie addirittura ricoverata in ospedale per lo shock, ma quante arie, non penserà mica di essere l'unica cornuta del mondo, ce ne sono tante. Oliviero Toscani, buonasera. Buonasera, state bene ragazzi? Combattiamo come leoni, siamo qui. Siamo qui. Siete sempre lì? Siete sempre lì? Fino a quando non ci cacciano, siamo qua. Ma non vi cacciano. Oppure fino a quando non ci andiamo noi. Cacciate voi tutto al più. Sì, al massimo e ci andiamo noi. Siamo ancora qua. Già. Caro Oliviero, ma tu che sei Olivier, un uomo... chiamalo Olivier, perché c'è la questione francese. Olivier. No, ma che Olivier, tu che sei un uomo di mondo, no? Un uomo di mondo. Che ne dici di questa vicenda Hollande? Ma possibile mai che uno col motorino si deve fare scoprire in questo modo? Si è voluto fare scoprire? No, ma devo dire che sono molto felice che lui abbia risposto così. Bravissimo. Cioè? Bravissimo. Cioè, non rompetemi le palle, robe mie. Ma che vuol dire? Ti sei fatto beccare dai fotografi in bocchi la privacy? E allora? Ho capito. Il fotografo sono solo il depositario della verità. Vabbè, ho capito, ma il presidente della Francia non è che puoi fare quello che ti pare. Dai, su pure tu. Ma dai, quelle robe lì fai quello che ti pare. Ma sì, quello deve stare a controllare l'uccello del presidente della Francia. Ma faccio le cose giuste col cervello. Sì, d'accordo, ma è evidente che se tu stai, c'è una premier dame e tu tradisci la premier... Ma non era premier dame, fra l'altro. Lui era sposato già con la Ségolène Royal. No, non era manco sposato in realtà con la Ségolène Royal. Vabbè, neanche sposato con questa, che anche lei non è neanche simpatica. Forse ha trovato una ragazza simpatica, lasciatelo fare. Può essere solamente un grande auspicio per la Francia. Cosa dici? Che lui sia felice. Vabbè, quello, ma sei felice, va bene, ma non ti puoi fare... Ma lui cerca la felicità, si vede che con quella non era felice, forse con una felice ma certo sarà anche più brava come presidente. Ho capito, ma tu non è che puoi, come dire, farti trovare la mattina con quello che ti porta le brioche, i cornetti, eccetera. Ci sono motivi anche di sicurezza, non puoi andare a trombare in giro così, come se nulla fosse, dai. Cioè... ci siamo incazzati. L'ha fatto, è stato bravissimo, non ha fatto niente di male. Io trovo che comunque, com'è possibile secondo te che un uomo del genere, che insomma non è il massimo della bellezza, possa avere tutte queste fighe intorno? Caro mio, è il potere, il potere, le PVA. Infatti, grandi qualità, bravissimo. Le PVA, non avrei mai pensato. Ma capisci, c'è tutte belle donne, no? Tu che sei anche un esteta da questo punto di vista, è logico. Beh, è una cosa incredibile. Vabbè, senti, hai visto... Ma il potere affascina le donne, Hai visto che succede intorno alla Chieng, la Lega, che mette la Padania, che pubblica tutti gli appuntamenti. Tu la Padania la leggi come giornale? Sono analfabeti, loro non sanno neanche scrivere. Ah, dici che sono analfabeti proprio? Sono totalmente analfabeti, gente analfabeta. Sì, dici. Stanno perdendo colpi, ormai fra un po' si dissolveranno totalmente. Sì, e la Padania? Fa diventare gli altri sì. razzisti verso i padani, come loro sono razzisti verso quello che loro chiamano i negri. Sì, sì. Ma i padani sono i negri per la gente intelligente. Addirittura, addirittura. Cioè? Sono i negri bianchi. Cioè, per la gente intelligente loro sono i minus. La gente intelligente, scusate, sensata, della gente che non è razzista. La gente razzista ha tutto il diritto di essere razzista con i padani. Ah, tu sei razzista con i padani? Totalmente. Totalmente razzista con i padani. Quello che loro sentono per i negri, come dicono loro da buoni ignoranti, sì. io lo sento per loro. Ah. Ma beh, scusa, vedi che Tosca è. Ma tu la padana dunque nemmeno la leggi? Che... Sono padano io, sono padano, di nato a Milano. Ma la compri, non dico la compri la Padania, ma se la trovi in un bar, no? Beh, logico, mi piace. Che fai? Le barzellette, le cazzate, insomma, sono curioso di sapere fino a che punto di demenza riescono a essere. Ma come la usi sta Padania? Beh, non si può usare per pulirsi il culo, perché fra l'altro è carta, anche lì la carta è scarsa. Ah, la carta è scarsa. Sì, quindi perché... sono scarsi anche in qualità di carta. Perché tu dici che l'unico scopo potrebbe essere quello poi alla fine. Ma sì, soffiarsi il naso, pulirsi le cose, sputarci dentro, metterci dentro il pesce marcio, insomma, quelle robe lì. E tra l'altro io non ho mai detto una cosa, che sono soldi nostri, cioè, caro Parenzo. È logico. Sono soldi nostri. Beh, soldi che finanziano, abbiamo detto ieri. Recuperavano, no? Cioè anche le biciclette delle proprie. Senti, però la Padania, anzi la Lega ha cambiato leadership. Adesso c'è Salvini. Tu lo vedi spesso in televisione, Matteo, no? Matteo, il giovane Matteo. Ma devo dire che effetto ti fa quando lo vedi? È un salumiere. Un salumiere, però non è male, effettivamente. Cioè, perché adesso un giovane salumiere padano. Cioè, secondo te è totalmente imbecille, non ho capito. No, Salumieri c'è gente intelligente, attenzione. E invece lui? No, parliamo esteticamente. Esteticamente, sì, certo, come tu sei un... Ma no, ma come si fa avere quell'età lì e ragionare così? Ma io mi domando, ma come si fa? Ma dovrebbe andare un po' in giro per il mondo e vedere. Come fa un giovane, diciamo giovane, avere quel cervello così? Non è possibile. Il cervello come, dici tu? Così, come dici, come parlano, come dicono, sono tremendi. Devo dire che mi fa ridere. Io dissi anni fa, all'inizio, quando c'era ancora Gentilini, sindaco di Treviso, era una battaglia giornaliera con Bossi, eccetera, che la Lega non è un partito, ma è una diarrea. Sì, classica frase di Toscani storica. Ci fu un processo che andrà avanti per anni. Rinsi, e mi dissi, non fui colpevole. Hai vinto quel processo? Caro mio, non male. Però scusami un attimo, ma adesso il direttore della Padania è una donna addirittura, si chiama Lussana. Ma anche le donne possono avere la diarrea, non è che... Anche le donne? Possono avere la diarrea. No, vabbè, certo, quello è vero. Comunque resta il fatto che Salvini sostiene di non essere razzista, ma di fare una battaglia politica sulle idee della Chieng, lo Ius Soli... Ma cosa vuol dire? Gli danno della nega, della... Ma come fa? Sono razzisti! Sono razzisti. Andrebbe chiusa la Lega? La Lega, ecco, che dovrebbe fare la Lega? Andrebbe fermata. Ma è illegale, signori, è illegale dire le cose che dicono. Cioè, in che senso è illegale? Cioè, tu dici, ci dovrebbe essere leggi che impediscono alla Lega di candidarsi, tu dici. Ma non lo so, ma io penso che bisognerebbe... Beh, Lega è illegale, hai detto, Lega è illegale. No, forse è meglio che siano lì, almeno si controllano. Tu dici perché altrimenti si perderebbero... No, vietare i partiti no. È pericoloso, perché comunque la gente scema rimane sempre dietro il partito, ma diventano più pericolosi. E quelli che votano Lega? I poveretti, hanno tanta fantasia. No, ma uno che vota Lega, che va nell'urna, entra nell'urna e mette... barra una croce sul simbolo dell'Alberto da Giussano. Ecco, tu come lo giudichi uno così? Vabbè, l'Alberto di Giussano va ancora bene, ma sono quello che dicono e quello che vorrebbero fare, che per fortuna non riescono a fare, perché... Adesso si sono alleati con Le Pen, con Marine Le Pen. Sì, ma sono cose in estinzione. Il futuro sicuramente non è la Lega, non sarà la Lega. Dobbiamo essere ragionare un po'. Sono in estinzione, se ti confronti a quando iniziarono, anche loro fra l'altro sono degenerati ancora di più, non sono più credibili, hanno rubato esattamente come Roma, come Roma ladrona, hanno fatto tutto quello che, non, che dicevano che non bisognava fare. Poi un ascoltatore mi scrive: Cruciani, perché non dice a Toscani che lui ha speculato con l'immagine dei bambini neri? Ma che c'entra? Ma quelle erano foto. Speculato cosa? Ma che ne so, ma questa gente scrive di tutto. Vabbè, Olivero, un attimo solo, abbiamo la pubblicità, poi ti faccio sentire qualcosa sul signor Sgarbi, che si è candidato a sindaco. Parezzo? Ancora? Si è candidato a sindaco a Urbino. Ma Sgarbi chi vince? Vittorio? A Urbino! Ovunque c'è un posto si candida. Ma basta! I segreti di Vittorio Sgarbi. Davvero, come dice Vittorio Sgarbi in un'intervista pubblicata di recente su un giornale di quelli che si trovano dai parrucchieri, con tutto il rispetto per i parrucchieri, è in grado di andare con una cinquantina di donne a botta a settimana, che ha detto? L'arpa. Davvero ha ancora la vigoria sessuale, la forza sessuale di non so quanti anni fa, di quando aveva 20-30 anni, così dichiara lui? Non vivo alcun calo di desiderio sessuale, dice. Ho anzi un harem molto ampio. Posso incontrare anche 50 donne alla settimana. Beh, dai, però non bisogna raccontare troppo. Va bene, ma, ma voi sapete che tutti i maschietti che hanno di queste che fanno emanano teorie di questo genere sono sempre quelli che meno combinano. È una vecchia teoria che... Confermi anche per Sgarbi? Sì, assolutamente. Assolutamente. Sulla testa Luselin faceva festa, è un po' più in giù, voleva volare Luselin, le accomare, è un po' più in giù, voleva volare. Ma non è che non combina niente, si porta a spasso delle grandi, un conto è portare a spasso, un po' un conto che succeda realmente qualcosa, tutti quelli che mostrano e che portano tanto a spasso sono un po' generalmente, sono quelli che... Insomma, generalmente è così, però insomma io non posso dire, è un personaggio consumato, consumato da tutto, sicuramente è consumato anche lì. Quando ci si consuma tutti, si vede dal volto, anche gli occhiali gli penzolano. Beh, questa è diretta, gli penzolano anche gli occhiali. E beh, sempre più conferme, caro Oliviero. Sulla tua teoria, no, Oliviero Toscani? Sulla tua teoria. Ma io ho detto una cosa e adesso viene confermata. Ma comunque Marina Ripa di Meana di uomini se ne intende, quindi ascoltate quello che dice. Ah, beh, noi infatti intende. L'abbiamo ascoltato in religioso silenzio. Se ne Sgarbi, 50 donne al colpo, forse sì, quando le porti in pullman a vedere da qualche parte, non so, un quadro, una scultura. Comunque non prendiamoci col povero Sgarbi. No, per carità, ma voglio bene al povero Sgarbi. Ma per carità. Andrai a fare l'assessore nel comune dove si è candidato adesso? A Urbino, sì, ma a parte che non verrà mai eletto a Urbino. No, vabbè, lui si presenta a Urbino e farà anche lì. Devo dire, lui dovrebbe fare l'assessore alla cultura. A Milano era bravissimo, veramente. Ma che bravissimo. No, è vero, molto bravo. Ma voleva fare il cazzo che voleva, no, senza rendere conto a nessuno, era bravo, dai. Aveva dell'energia, faceva fare, aveva coraggio. Fare il sindaco invece non è capace perché non conclude. Coitus interruptus, capisci? Sì. Senti una cosa, ma però abbiamo detto sulla Lega, però pure sta Chieng chiacchiera. Ma sai, gli scemi ci sono dappertutto, adesso qui non è una questione, che il problema è lì che loro ce l'hanno perché è nera. Sì, è vero. E allora, è un altro discorso, anche lei non è che concluda molto, ma non è che conclude meno... Del Presidente del Consiglio e da tutti gli altri, dai. Sì, cioè chiacchiera e poi pure lei. E anche quell'altro chiacchiera, promette, non conclude niente. Cioè, ma è importante come simbolo avere un ministro nero oppure non è come dice Parenzo nel suo... Non è che è importante, dico, ormai in Italia ci sono anche i neri, non è che non è un italiano, insomma... non stiamo lì a discutere se è nero e bianco. No, ma quello no, quello no, che c'entra, quello no. Allora. Però delle sue idee vuole lo Ius Soli, ma tu sei a favore dello Ius Soli, poi che è logico. Se uno nasce in Italia, ma tu dici. Ma qualunque persona di buon senso è a favore dello Ius Soli. Io sono contrario. Ma io sono contrario. Ma nel nuovo mondo non esiste questo contrario. Mondo nuovo che c'è con la gente che si muove, va, viene. Io sono contrario. Ancora contrario. Col sangue stiamo, ma perché tu sei reazionario. Ma non è, ma perché sei un reazionario tu? Qui bisognerebbe fare la rubrica qui Cruciani sulla Padania, altro che qui Chieng. Cruciani chiaro, Cruciani ha ancora delle paure, poverino. Ma non è che sì, ho paure. Ha paura di se stesso. Vede le paurette, dai. Vede uno di colore, pensa che gli portino via la bambina. Beh, guarda il portapena. Ma non è vero. Invece ma magari vede uno indiano che magari è un grande ingegnere. Dice, oh cazzo, gli porta via il portafoglio. No, è un ingegnere indiano. Ma a proposito di indiani, tu sei, ti accodi alle persone, Oliviero, che vogliono andare lì a liberare i nostri marò? No, io non mi accodo a nessuno. Ecco. Prima di tutto, perché sì, non è il mio sistema di costumanza. Allora, io penso che se i marò sono colpevoli, hanno ammazzato qualcuno, insomma, se degli indiani fossero venuti qua e avessero ammazzato due dei nostri pescatori, cosa avremmo fatto noi? No, ma hai ragione, su questo ti do ragione, devo dire la verità. Ti do e ragione. Allora? Cioè, se noi avessi, se ci fossero stati due indiani, ma due indiani di una nave che ammazzano due contadini o due pescatori italiani, due pescatori italiani, noi ci saremmo incazzati come bestie e mamma mia, per carità, in India non si sa bene che fine possano fare, la pena di morte, eccetera, eccetera. Ma secondo quello, te dunque, è un altro problema, secondo te è giusto dunque che abbiano una condanna, avendo comunque ammazzato, questo è certo, avendo ammazzato due indiani? Non so, io adesso vorrei vedere in che modo hanno ammazzato, perché non è detto, adesso non sono capace, non è il mio mestiere fare il giudice, se era per... Tu dici però è ipocrita. Difesa, non difesa, sono dei militari, dei soldati, sì, insomma non lo so, comunque se hanno ammazzato, insomma, non è che... Cioè ipocrito il coro di quelli che dicono basta, ridateceli indietro, eccetera, eccetera. Logico, sì. Non sei così nazionalista. No, io penso che la giustizia non ha frontiere, la giustizia è giustizia. Cioè se hanno sparato a qualcuno è giusto che sia logico. Devono essere condannati. Senti un attimo, ma a proposito, si parla molto, si è tornati a parlare della cannabis, della legalizzazione delle droghe leggere. Però facciamo qui una confessione, perché qui è un posto dove si fanno le confessioni, dove si dicono le cose chiaramente. Parenzo ha detto più volte che continua a farsi le canne alla tenera età di 38 anni, continui ancora a farti le canne. 37 ogni tanto faccio una cannetta. Diciamo la verità, Oliviero. Meglio farsi le canne che votare la Lega. Ma vuoi capirlo o no? Che scrive o che insulta o che lanciare banane al ministro Chiang. Meglio una canna, è molto più sano. Anche che tu la pensi razzisti, così? Senza dubbio. No, io penso che ci sono delle cose che sono molto più forti delle canne, insomma, è una questione di gusto. Ma tu te le fai? Cioè, bere alcol, per esempio, sì, non va bene. Ma tu te le fai ogni tanto le canne? No, non faccio le canne. Non ho tanto rispetto per chi ha bisogno della droga per essere più creativo. Ma certo. Ecco, non ho mai avuto rispetto per questa gente. E soprattutto perché una generazione che ha sofferto molto di questo, sono stati i primi noi a farci le canne. Ed io ho avuto dei amici morti di droga. Ma è questo che c'entra con la cannabis? No, ma la droga è una cosa. Però mi sembra Giovanardi, mi sembra. La cannabis fa male, fa bene. Credo che il whisky sia molto peggio, la grappa sia molto peggio. Ma mi sembri Giovanardi quando parli così, quando dici. No, non sono tale Giovanardi, parlo così, non so come parli Giovanardi. Dico, ma che cazzo, fatevi le canne, non sono assolutamente contrario. Ah, appunto. No, senti, ma... figura che anzi, Giovanardi se ne facesse un po' gli farebbe bene. Dici, se si facesse un po' di canne direbbe cose più sensate, secondo te? Molto più sensate. Senti, ma tu sicuramente aiuta l'immaginazione a chi proprio non ce l'ha. Ma se ce l'hai, forse te la soffoca. Ah, tu dici, Sì. Senti, ma vogliamo risentire Buonanno che si colora di nero? Per colpa tua mi sta scrivendo, ad esempio, tanta gente sul cellulare, chi Cortone, al drogato, mi sta scrivendo. Io posso precisare che sennò... No, ma tu ti fai le canne. Chi Cortona, che tu è un mio amico da, che non sento ma da qual tempo, è il problema? Mi ha qual scritto è il problema? Per colpa tua, drogato adesso. E allora qual è il problema? Chi Cortona, chiedi scusa a Ortone di che ma non sono drogato. Sì. Ma scusa. E metti anche il zafferano, tutto. Ma mi è capitato di dare un tiro a una canna, ma su quando siete moralisti. Ma meglio, però meglio quello che fare quella roba qui, Chiang, lì, come si mettere sull'organo di stampa della Lega, che si sa come la pensa nei confronti di quel ministro, mettere quella è un'aggressione. Ma cosa? Non è vero, quello non è affatto una cosa razzista. È come dire, è uno scherzo, è un come, gioco, ma dai. Che gioco? È come è dire, un gioco, ah, con tutte le contestazioni che ci ma sono state, non è un gioco. E meno male, dai, non è successo nulla. Ma ha ragione Merlo con l'articolo su Repubblica. Esatto, oggi. Bravissimo Francesco non Merlo. È successo nulla. Bravissimo Francesco Merlo. Troppo buono. Esatto. Cioè tu cosa? Troppo buono. È vero. No, tu vuoi mettere al bando la Lega, Toscani? Diciamo la verità. Vuoi mettere al bando la Lega? Non voglio mettere al bando la Lega. Vorrei che cominciassero a ragionare come degli esseri umani, non come delle bestie. Ma perché sono dei subumani? Sovumani totale. Vabbè, ma roba, ma non si può ragionare così, dai, su. Scusami, però allora, io ti dico... ma scrivere una roba così non ha senso. Allora io ti dico una cosa, caro Oliviero, lo ammetto qua. Ho votato, ogni tanto ho votato la Lega. Allora? Ma tu c'è una cosa bella che hai fatto nella tua vita? Senti, no? Anch'io ogni tanto me la son fatta addosso nella vita, eh. Vabbè, ma non è la stessa cosa. Ti sei cagato addosso qualche volta o no? Ma non è la stessa cosa. È uguale, non è che me la può... prendo perché ti sei cagato addosso, non è questo che tua mamma se la prende con questo te. No. Questo no. Dai, si non si può dire. Si è un partito rappresentato nelle istituzioni. Ha avuto, è stato al governo. Questo ma anche no. La cacca, ma non è senso. Ma fare, c'è un presidente di regione. C'è un presidente. E allora, che cavolo? È la tua regione, sei con i pantaloni verdi, è logico. Sei lombardo anche tu, c'è un presidente della Lega che rappresenta le istituzioni, che lavora, non puoi dire che è una merda, è una cacca. Maroni che cos'è? No, non ho detto, che hai avuto, te la sei fatta addosso ogni tanto. Sì, ma è successo quando ero piccolo, insomma. Vabbè, dai, su, non si può. Caro Oliviero, t'abbraccio, ciao, a presto. Ciao a tutti, ciao. Siete un branco di falliti. Lei, signor Cruciani, fa parte di una generazione di intellettuali, di politici e di dirigenti falliti. Che l'estate pura mi rende isterico. È arrivato il momento di risentire la grandissima Bianca da Udine. Bianca da Udine. Pensavo Bianco, Angelo Pane Bianco. No, Angelo Pane Bianco è stato vergognosamente aggredito dai centri sociali di estrema sinistra all'università. Gli diamo tutta la solidarietà, certo, perché queste storie di violenza all'interno dell'università, come se fossimo ancora negli anni 70. Bravo. Da parte di un branco di delinquenti. Hai ragione, su questo hai ragione. Queste storie devono finire. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Succede all'università di Milano spessissimo, adesso non so dove fosse Pane Bianco, forse a Milano, non lo so. Beh, lui insegna a Bologna. Vergogna. Oh, Bologna era, scusa. Vergogna, non possono essere dei porti franchi le università. Beh, porti franchi, ma si sì, può esprimere spesso, l'opinione spesso senza dei porti far franchi. Ma certo, questo è scontato. Uno può fare tutte le assemblee che vuole senza rompere i coglioni agli altri, però sempre quello. Fate le assemblee, parlate, chiacchierate, discutete, i massimi sistemi, il capitalismo, tutto quello che volete. Basta che non rompete il cazzo al prossimo. No, però e soprattutto non minacciate i professori, ecco, gente che vuole fare lezione, gente normale, civile, gente ragionante. Understand. Eh sì, understand, però Bianca, tu non è che hai detto solo understand, hai detto delle porcherie inaudite. Bianca da Udine. Meno male che glielo dici. Sentiamo, partiamo sulla Chieng, dai. È laureata, mia figlia, no. Come mai un ministro del nostro Stato, che è la signora Kempe, cioè questa qui, è venuta su da clandestina, è stata istruita da noi che le abbiamo pagato la laurea e tutto quanto. Io da cittadina italiana, da madre single divorziata, non ho potuto laureare mia figlia. Ma che c'entra? Ma cazzo se c'entra, non farmi parlare male, cazzo se c'entra! La mitica Bianca se la prende col fatto che secondo lei la Chieng non sarebbe italiana. Ma va a cagare! È italiana come tu sai quando vai in bagno! Tu, lei non è italiana! Non lo è! Come cazzo è italiana! Mia figlia! Io sono italiana! Lei no! Col cazzo che è italiana! Col cazzo che è italiana! Non venirmi a dire che è italiana! Non lo è! Understand? Mi hai capita? Non è italiana! Bello che dice. Bello che dice. Understand. Non è italiana. Understand? Sì, io non farei però un'analisi frase per parola per parola di quello che ha detto. Non sa niente dell'Italia. Senti questa, Bianca da Udine numero uno. Tu sei come una piccola zanzara. Perché io devo assoggettarmi a una persona che della mia cultura ma non sa neanche che cosa sono? Cosa vuoi che sappia lei di Garibaldi, di Mattini? Tu pensi che quella donna lì e allora? È italiana? E allora? Ma stai zitto, coglione! È italiana! Coglione, ripeto, dolcissima signora sei Bianca! Understand! Ah, ridaglia con sta understand! Cristian da Milano, buonasera! Molto buonasera, Cruciani! Dimmi, caro, dimmi! Allora, intanto un saluto che è da tanto che non ti vedo all'Esselunga e ti consiglio di pista nuova del Porta Garibaldi, che è sotterraneo, è una bella esperienza. Vabbè, adesso no, non è che c'è, c'è l'esperienza. Non ho capito, scusi, lei incontra, fammi capire, no. Lei incontra il signor Cruciani all'Ex Lunga. Che cosa compra, certo, Cruciani quando torna a casa dopo le sue mattane radiofoniche? Ma io, cosa io sono una persona normale. Cosa mangia? Sono una persona normale, cosa vado all'Ex Lunga a fare la spesa, spesso cosa anche compra? Insieme a mia figlia. Ma molesta, ma le cassiere quando va lì alla cassa comincia a dire dai, dai, traffico, traffico, dica alla cassiera. Non è che lo seguo, ci si incontra persi tra gli scaffali, ma è da solo, insomma, con se... qualcuno, ma con mia figlia spesso, dai, su, vabbè, saranno cavoli suoi, comunque lo incontro, mi fa piacere. No, visto che c'è il signor Toscani, ho coniato il payoff della storia di Strasburgo con il socialista belga Marc Tarabella. Ah, Tarabella, che... si chiama Tarabella. Tarabella che striglia Matteo Salvini. Salvini, no? Sì, perché dice e che è una fannullone perché non va alle commissioni. Come presenza nelle votazioni abbiamo visto intorno all'80%, 76%. Probabilmente non va alle commissioni. È uno che ha incarichi anche nazionali. Certo, ma lo ha ammesso pure lui, bisogna essere più presenti. No, ma infatti l'ha ammesso, ha detto anche una bella frase, no? Ha detto ci sta, infatti il payoff è il fannullone padano ci sta. Quasi da postare il fannullone padano. Un attimo, traffico, poi vediamo se abbiamo quel numerino di telefono. Allora Cristian, vogliamo concludere? Concludiamo, anche perché niente, voglio dire, niente, non c'è un cazzo da aggiungere. Il socialista Besti ha dato una bella strigliata. È il caso che Salvini o restituisca i soldini, come dicono loro, oppure che non si candidi lui e altri fannulloni padani alle europee. Vabbè, ma uno non vale commissioni, lo sa che nelle votazioni al Parlamento europeo ci sono perché gli dava malissimo, eh? Cioè uno dovrebbe essere sempre presente, dovrebbe fare quel lavoro. Se pagato a fare, se non mi presento, sì, dove sì, ma per pagano per presentarmi, mi tirano un calcio in sedere, assolutamente, no? Giacomo, no, ma hai ragione, hai ragione. Giacomo da Verona. Sì. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Buonasera. Io vorrei solo dire una cosa al caro Toscani, grandissimo artista come fotografo, ma purtroppo predica bene e razzola male. Non in si ricorda senso? Forse quando il signor Toscani andò in televisione a difendere i Benetton perché avevano scoperto che nelle fabbriche di Benetton c'era il lavoro minorile e siccome lui guadagnava con i Benetton fece il paladino dei Benetton e si vergogna un po' a criticare la Lega. Nelle fabbriche della Lega i minorenni vengono sfruttati. Vabbè, adesso questo non c'entra nulla. Cioè... solo che lui spara sulla Lega, però quando difende il suo portafoglio dice il contrario di quello che pensa stasera. Non è giusto da parte di Toscani questo, perché voi non vi ricordate, ma io no, me lo ricordo benissimo. Il signor Toscani è molto bravo a sfruttare l'onda, no? Come era bravo a sfruttare la sua arte fotografica. Aspetta, aspetta. Vai. Tar. Squilla il telefono della zanzara. Tarabella, deputato del Parlamento europeo, partito socialista del PSE, belga, molto simpatico. Oh, e rispondi a Tarabella. Monsieur Tarabella. Marc Tarabella, merci de laisser un message et je vous rappelle dès que possible. Beh, amico mio, dès que possible. Tarabella, je suis David Pons et le Giuseppe Cruciani. Alle, no, ma non sai parlare francese. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, émission La Zanzara. Émission, come parla? Beh, certo, émission La Zanzara. On vous cherche pour un interview sur Salvini, sur Monsieur Salvini. Beh, on te rappelle. Siamo qui. Richiamaci, Tarabella, dai. Giacomo, dai, allora? Niente, pronto? Sì. Niente, volevo soltanto fare un pensierino al buon Toscani. Complimenti per la trasmissione. E guai a voi se non ci sarete più prossimamente. Bah, ci si rinnova sempre, anche se uno dovesse come dire, dipartire, anche se dovesse dipartire, no, un microfono no, ci sarà sempre a nostra disposizione. E rinnovare. La vostra trasmissione, anche se a volte Parenzo diventa antipatico, ha bisogno di esistere. Giuseppe, provincia padano, di Vicenza. Giuseppe, provincia di Vicenza. Grazie. Buonasera. Allora? Credo che stasera lei abbia fatto una battuta molto giusta, che ritengo io personalmente molto giusta, quella di chiudere le regioni e lasciare aperte le province. che dall'esperienza mi sembra... No, io non ho detto lasciare aperte le province, scusa. Credo che la politica è di vista, cioè, del territorio, vicina alla gente che vive nel territorio, è quella della provincia. Quindi a sì, però adesso non stiamo a fare queste cose qua. Le province vanno abolite, secondo me, perché sono enti che hanno poche funzioni, inutili, o comunque vanno sterilizzate le elezioni, non bisogna più eleggere consiglieri provinciali. Primo. Sulla questione delle regioni, è evidente che negli anni, avendo attribuito alle regioni un sacco di potere, e si sono state date alle regioni un sacco di soldi. Purtroppo, dove ci sono i soldi, in Italia, dove ci sono i quattrini statali, dove ci sono i quattrini statali, a valanga, i politici si avventano. O ogni spesa va rendicontata, via internet immediatamente. Ah, ma che cazzo fa questo qua? Ma non fa niente sto Tarabella. Bruxelles c'è lo stesso orario italiano. Pronto? Tarabella? Ciao. Tarabella, Parenzo grande. E la Zanzara e Cruciani, Radio 24. Radio 24, ciao. Buonasera. Ciao, come fratello. Come stai? Molto bene. Ti disturbiamo? Noi ti abbiamo disturbato semplicemente per una cosa. Ti stiamo cercando ormai da un'ora per questa storia di Salvini, per questa sortita spettacolare che hai fatto oggi. Dove sei? A Strasburgo? A Bruxelles? Dove sei? No, a Strasburgo, in area del Parlamento. Ecco, ma perché gli hai dato proprio del fannullone? Proprio non è mai venuto. Dov'è che non si è presentato, signor Salvini? Ma io da 2 anni lavoriamo in Parlamento. La riforma degli appalti pubblici, sì. C'è stato un lavoro molto lungo con tante riunioni per fare in tal modo che la spesa pubblica si fa in modo migliore, sì. Favorizzando le piccole, sì. aziende che hanno bisogno di lavoro, sì. I lavoratori, la spesa pubblica più sana, sì. con Vabbè, più regole, sì. e dunque era una possibilità di veramente influire, sì. sulla decisione, di influenzare la direzione della decisione, sì. e con siamo 7 gruppi politici, io del gruppo socialista ho lavorato con quasi tutti i gruppi politici, popolari, liberali, verdi. Non si è mai presentato Salvini? E lui è venuto un'unica volta su 50 riunioni, perché c'era molto difficile di negoziare con il Consiglio. È venuto una volta su 50 e poi oggi poi tu dici a un certo punto se ne esce dicendo che non avete combinato niente. Perché ti sei incazzato così tanto? Esatto. Effettivamente c'è una verità da dire. Sono deputati che si impegnano molto, anche in Italia, molto, sì. e lui no. Ma lui fa solo criticare in TV, e dunque è un fannullone, lo mantengo, perché sì. lui non ha cioè dice è un prezzemolino TV, è un prezzemolino TV, però assenteista dove ci sono le cose che contano quando si decide. Esatto, chiaramente. Perché la gente deve sapere che possiamo influire in un modo essendo presente. Poi quello bisogna vedere poi quale. Sì. E dunque vale la pena di essere presente, e penso che quando la gente elegge deputati è per lavorare in Parlamento, nelle commissioni, nelle sì. riunioni di lavoro, e non essere solo in TV. Però questo a un po' chiacchierare e a criticare gli altri. Scusa un attimo, tu dici Salvini sta più in televisione a criticare gli altri che a fare le cose al Parlamento europeo. Però è anche il segretario della certo. Lega ha un incarico. Tu dici dovrebbe dimettersi da parlamentare europeo se uno non riesce a fare il doppio lavoro? No, ma la Lega io le odio perché sono solo capace di pubblicare l'agenda della ministra Kyenge o fare solo cazzate, ma lavorare seriamente non sono capace, la gente deve saperlo. Cioè li odi addirittura per questo? No, chiaro, beh sì, perché non lavorano, chiaro, non è questa la funzione di un politico. Un politico ma... deve lavorare dove è eletto e abbiamo modo di influenzare la decisione in modo positivo. Ma dovrebbe dimettersi dal parlamentare europeo per le sue assenze, Salvini? Salvini ha lo stesso stipendio che gli altri colleghi che lavorano. Lui non lavora e ha un stipendio. E dunque? Dunque è una vergogna. Ma si dovrebbe dimettere? sceglie lui, ma sceglierà il popolo italiano che voterà come tutti i popoli il 25 maggio e spero che la Lega non sarà in discesa perché non merita avere la fiducia del popolo. Senti una cosa, ma come giudicato dal punto di vista del Parlamento Europeo, no? Queste cose che tu dici, queste assenze, vabbè, se lascia perdere questa cosa qua, la cosa importante da sapere è questa: secondo te, anche per questa cosa della Chienghe, della rubrica, gli appuntamenti pubblicati sul giornale ufficiale, è razzista la Lega? Sì, è razzista la Lega. È un partito di estrema destra, xenofobo, e dunque ci sono evidentemente ci sono colleghi che odio particolarmente, come Salvini, come, perché anche di più non lavora, Borghezio, infrequentabile, e ci sono altri più seri che lavorano, ok, ma in tale modo il linguaggio di quelli che sono, adesso Salvini è capo della Lega, ma è chiaramente un partito di estrema destra, niente di meno. Ma andrebbe secondo te cacciato dal Parlamento Europeo come partito, cioè proibita la presenza della Lega? Incompatibile. Sceglie la gente, e questo democrazia, ma la gente deve sapere che ci sono deputati popolari, lavoro con Baldassare bene lavorato, che lavorano, e gente che non lavora, dici tu, è gente che non lavora. Con Panzeri e Tofferati ho lavorato, del mio gruppo, ma anche con popolari, anche con liberali lavoriamo, ma ci sono quelli che non lavorano e che fanno credere che difendono la gente. E questa è, la gente deve rendere. No, ma io dico dal punto di vista del razzismo, secondo te. Votare per quelli e buttare il voto via. Vabbè, questo però è un altro discorso. La cosa che ti volevo chiedere è ma questo è un altro discorso che riguarda la scelta della gente. E la cosa che ti volevo chiedere è questa: secondo te va messa fuori legge un partito che mette l'agenda della Chienghe sulla Padania, che secondo te usa metodi razzisti nei confronti dei neri, eccetera? In Belgio abbiamo leggi che saranno condannati e impediti di partecipare alle elezioni. Dunque, abbiamo una legge che impedisce queste parole. Dunque, secondo te, fossimo in Belgio, la Lega non potrebbe partecipare alle elezioni? No, Borghezio, che ha detto questo con la Chienghe, fuori, chiaramente. Dunque, con proposte come quelle, con parole come queste, è inaccettabile. Inaccettabile. Nazisti, sono nazisti. Nazisti, sono nazisti. Nuovi nazisti, è lo stesso. Nuovi nazisti, stesso. Ma tutti nuovi, anche Salvini è nuovo nazista? No, io parlo di Borghezio in questo caso. Quel che ha detto è degno del regime nazista. Senti una cosa, un'ultima cosa. Nei confronti dicono lo stesso per esempio della popolazione africana, che come i nazisti lo dicevano dagli ebrei. Ecco, e la Lega invece è razzista, tu dici. Però io voglio chiederti una cosa, veramente per concludere, ed è questa. Parenzo, che stai a farla? Stai a scrivere? Sto rispondendo a quelli che mi insultano. Ma io dico una cosa, caro Tarabella, ma la Lega devi dire, la Lega. Perché la Lega? Chi è? Non conosco io questo Tarabella. Ma te è un deputato europeo socialista? Ah, io conosco Renzo. Ma che c'entra Bossi, Renzo? Non conosco Tarabella. Questa è Bossi. Non è bella Tarabella, non è bella. Ma no, ma ma è Tarabella, è parlamentare europeo. È del sud come te. Ma non è del sud, è del nord dell'Europa. No, non è del nord, dice contro la Lega. Lui. Ma tu ti vergogni a sedere al Parlamento europeo insieme a Salvini? Eh sì, perché quando ho parlato ieri ho avuto qualche applauso, perché i cinque altri shadow relatore per ombra sapevano che lui non è mai venuto, e loro hanno lavorato, tutti i gruppi. Sì, ma tu ti vergogni a sedere lì accanto nello a lui? Nello stesso emiciclo, diciamo. Vabbè, ci sono quelli che lavorano e quelli che non fanno niente. Come Salvini. Va bene. La gente deve sapere. Va bene. La gente sceglierà, non sono io a scegliere, ma io devo dare questa informazione quando va bene, abbiamo fa data una critica e che non è venuto a lavorare, e la gente sceglierà. Grazie Tarabella, a presto, ciao. Grazie a voi, grazie, ciao. Buonasera. Sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la sentiamo. Ci sente? No. Grazie, una culo. Ah, gradina. Sai, io si voleva sapere perché. Ci sente? Io sono stanco come una mucciacita. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho si no prendo sueno. Non le importa mucho si no prendo sueno. Non le importa mucho si no prendo sueno. Servillo, molti l'hanno criticato, ma a tutti può accadere di non spegnere il cellulare quando o non si vuole parlare con una persona, oppure si fa finta di essere sotto un tunnel, oppure si è davvero sotto un tunnel dove non prende il telefono. Vabbè, si è lasciato scappare un vaffanculo, ma mica l'ha mandata davvero a fare il culo. Difendere le cause perse. Ma non è una causa persa. Cioè, per quale strano motivo Giuseppe Cruciani ama difendere tutte le sciocchezze che vengono dette anche da un grande attore che è stato fortemente maleducato? Ma che fortemente perché maleducato? C'è stata una domanda legittima di una persona. Devo dirti la verità, è più grave il fatto che Servillo, è molto più grave il fatto che Servillo si sia dimostrato un po' allergico a una critica che il vaffanculo, quando ha detto non è il caso adesso di parlare delle critiche, invece no, è sempre il caso, e poi comunque uno ti fa una domanda e rispondi, no? Cioè non è che dici no, le critiche adesso bisogna unirsi tutti intorno alla grande bellezza, no, io non mi unisco intorno a un cazzo, caro Servillo, hai capito? Appunto, allora, perché non mi unisco però il vaffanculo perché lo difendi sul lo difendo sul vaffanculo, no, scusami, però lo difendo sul vaffanculo perché è casuale, perché ha pensato di chiudere il telefono e non l'ha fatto, non voleva rispondere. Non lo difendo quando vuole che tutta l'Italia sia dietro la grande bellezza. Siccome ma vai senso, a fare in culo tu. Il senso di quella domanda era proprio quello di discutere con lui di questo film. Ma come ti permetti di... Sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la pronto? Sentiamo. Ci sente? No. Grazie, una vaffanculo. Ah, grandissima. Dai, io si voleva sapere perché. Ci sente? Understand? Alla noce no. Understand? Canchia. Non sarà, lo so. Canchia. Dai. Sta dietro là. Giovanni da Torino, buonasera. Salvini dice, scrive un po' ovunque che lui comunque è presente per quello che riguarda se è presente, le votazioni. Ha ragione ad arrabbiarsi. Le se votazioni. È presente, ha ragione. No, però allora, Tarabella si riferiva alle partecipazioni di Salvini a una commissione specifica. Io devo dire che tutte le volte che sono andato a Bruxelles e a Strasburgo e tu eri con me, c'è sempre stato. Quindi al di là, al netto di quello che dice la Lega, posso condividere o meno, ma tutte le volte che io sono stato lì e tu c'eri, lui come c'è no, sempre certo. stato. Questo poi io, magari ultimamente ci è andato un po' di meno perché è diventato segretario della Lega, questo sono stanco di impegni. Sbagliato, di perché in Italia c'è la cattiva abitudine di considerare l'Europa di passaggio. Io devo dire no, la verità. Scusa, non l'Europa, tutti i segretari di partito hanno presenze bassissime anche in Parlamento. Sì, certo. Bersani le aveva. Allora, anzi, i segretari di partito dovrebbero stare fuori dal Parlamento. Non serve che vabbè, i segretari è un altro di partito stiano dentro il Parlamento. Però devo dirti la verità, io una volta ho rischiato di fare un viaggio, perché me l'ha detto, mi ricordo, in un'occasione, perché in macchina Milano-Strasburgo con il signor Salvini. Perché ha detto vai a Strasburgo, perché non andiamo in macchina? Io ho detto no, poi andiamo in aereo. No, ma che c'entra? Ti volevi per far dirti candidare. Che per andare a Strasburgo andava candidare. Ma quando mai? Ma non dire stronzate. Andava anche in macchina, per cui sì, vero, per un certo periodo era sempre presente. Poi mi dicono che abbia anche il 91% di produttività, ma non so come si calcola questa roba, ed è fra i primi 100 per interrogazioni. Comunque, al di là di questo, Tarabella, che è stato durissimo perché ha detto odio Salvini, la Lega è razzista, nazista, lo ha detto apertamente, in Belgio sarebbe esclusa dal Parlamento europeo, dalla corsa alle elezioni, è stato durissimo, signor Tarabella, dice che Salvini è stato fannullone in una commissione. E vabbè, se prenda pure sta roba, mi sembra che durante la discussione al Parlamento europeo non abbia fatto una piega però lo stesso Salvini. Chi eravamo? Giovanni? Avanti, Giovanni. Ciao, senti, allora, volevo parlare di droghe, però una premessa sulla questione Lega. Allora, la Lega non esiste in quanto la pianura padana si chiama pianura tanarana perché il fiume più lungo d'Italia non è il Po ma è il Tanaro. Voilà, quindi già loro vabbè, sono dai, falliti poi, in partenza. Poi, allora, sto drogato di Parenzo, cioè, qua vogliono legalizzare. Drogato di Parenzo, ma di che stiamo parlando? Sì, perché lui si fa le canne. E allora? No, allora. Ogni tanto mi è capitato di fare un tiro a una canna. Questo ma ogni tanto, vabbè, ogni tanto ti fai proprio le canne, drogato. Non è che ti è capitato, ogni tanto ti fai una canna. Solo, non è che metto da una solo. Una volta a settimana, secondo me, ti fai le canne. Ma che una volta a settimana? Ma l'ultimo, un mese fa, lo dico, ogni volta che l'ho fatto l'ho detto. No, una volta a settimana. Ma non è vero, fosse vero, ma non è vero. Drogato c'è lei intanto. Settimana drogato. Ti fai le canne. Questo non è vero, lo direi sì, se fosse vero, ma non canne. È così ancora. Ma non c'è niente di male. Adesso ti devo querelare. Non c'è niente di male, grande. Capito? Ma se non è così. Ma perché qual è il problema, Giovanni? Scusa, perché ma non è così. No, perché intanto allora cannabis, marijuana, droghe leggere, perché dovete avere l'onestà intellettuale di dire che voi volete legalizzare la canapa. Perché si chiama canapa, perché cosa sono queste droghe leggere? Dimmene due. No, ma la canapa indiana, la canapa, certo. No, indiana, la canapa. Ah, vabbè, la canapa, la cannabis, sì, i cannabinoidi, i cannabinoidi, i cannabinoidi. Allora? Allora, volete legalizzare la canapa? Allora, intanto la prima domanda è perché usate il plurale droghe leggere? Vabbè, dai, è per semplificare. No, ah, non è per semplificare, perché tu, no. Ma questo si è fatto qualcosa. Sono 50 anni che la menano, droghe leggere. Allora, perché è la bocca una pianta che si chiama canapa. Allora voi fate informazione, dite alla gente che volete legalizzare la canapa. Beh, e allora? E allora, questa è la prima cosa. Allora, abbiamo l'alcol che produce centinaia, migliaia di morti. Bisognerebbe vietare l'alcol, altro che legalizzare la canapa. E il tabacco? Cioè, tutti i giorni, per droghe legale, muoiono più di 300 persone. No, ma questo in è vero, Italia. Questo è vero, questo è appunto per questo io. E allora bisogna vietarle. Sì, pure le sigarette vuole vietare. Eh certo, sì. E no, poi che capito. Facciamo? Vietiamo il sesso? Poi perché l'acqua? Qualcuno ogni tanto gli piglia una sincope mentre tromba? Vietiamo il sesso, che ne so. Sei già terrorizzato. No, sei già terrorizzato. La canapa è stata vietata, è stata vietata per 70 anni. Adesso non vogliamo legalizzare l'alcol cioè vietare l'alcol del tabacco, perché no? Ma dai, su. No, ma dai, io voglio noi diciamo di... Fermo, fermi tutti, fermi vino, tutti. Oh, mannaggia. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Se voi dite pro, noi diciamo secco. Pro secco. Se noi diciamo pro, basta, voi dite volta. Secco. Pro secco. Ma che c'entra il prosecco adesso? Se noi diciamo ba, voi dite rolo. Ba, rolo. Ma perché dici così? Perché uno così beve. Allora, caro Divino, complimenti per la sesta laurea. Cosa? Sì, siamo anche noi molto lieti. Ma noi chi? D'altra parte, uno è lui. Lo davamo per acquisito, eravamo solo in dubbio su alcuni dettagli. In che senso venuta... davate per acquisito, Divino, scusi? Ma il conseguimento lo davamo per acquisito. Beh, ormai sì. Il dubbio era sul tipo di votazione finale. Come siamo arrivati? Il 110 e lode effettivamente lo abbiamo apprezzato, insomma. Senta, scusi, bisogna fare i complimenti. Su questo bisogna scusi, Divino, però io vorrei chiedere una cosa. Sei laureato, bisogna fare. Lei ha 6 lauree? Beh sì, ma lo sanno tutti. Cioè. No, ma lo sanno tutti. Quella in scienze politiche del 75, quella in storia del 2003, sì. Poi le due alla Sapienza in scienze storico-religiose nel 2006 e 2008, sì. Quella in antropologia culturale e etnologia 2011 e poi sì. Questa in metodologie culturali e sono 6. Ma non era filosofia questa qua? Esatto, infatti è metodologie filosofiche. Metodologie filosofiche. Scusi, la tesi era. Ma è andato vestito con la giacca e cravatta o con quegli abiti da circo? No, era vestito di nero, mi sembra, no? Con un berretto. Sì, questa voce di sfondo che non sì. Conta nulla. No, non dico per rispetto all'accademia che l'ha laureata. Buttatelo via. Scusi, dottore. Mi fa perdere semplicemente consensi e credibilità. Mm. Sostituitelo con un orango che sicuramente sarà molto più utile alla causa. Dottore, finale. Ma si è presentato davanti al consesso accademico vestito in modo decente o con quelle solite pagliacciate che indossa? A questo individuo non noi. Abbiamo nulla da dire, siccome tra l'altro noi, siamo non lo sopporto, a cena dice noi. Con i fedeli festanti. Ma quale cena? C'è domani, da solo e non ci sente nulla domani, intorno, è da solo, quali fedeli? È da solo a casa. Domani dobbiamo essere sì. In diretta nel salotto di Barbara D'Urso. Ma dove dobbiamo appunto chi, poi? Parleremo ancora sì. Sia della tesi sui demoni, gli angeli, gli dèi e anche di altri interessanti argomenti, sì. Per cui coloro che vorranno sì. Sapere qualcosa che abbia un senso sì. Si sintonizzino insomma con Canale 5 domani. Con Canale 5 domani pomeriggio, benissimo. Senta, Divino, io vorrei chiedere una cosa, ma perché lei fa collezione? Posto che in Italia si laurea un sacco di gente, adesso non voglio sminuire la sua laurea, però perché lei fa collezione di lauree? In fin dei conti, a lei che cazzo fa tutto il giorno? Perché non si laurea di continuo? Se non telefonare alle radio, andare alla DURS. Noi facciamo un investimento su noi stessi, naturalmente, sì. E in particolare sulla nostra mente, che è già prodigiosa di per sé, ma che sì. Necessita sì. Di ulteriori innesti per potenziare, per espandere, per moltiplicare sì. I suoi centri nevralgici e le sì. Sinapsi soprattutto. Meglio che si laurei piuttosto che mandare in giro quei comunicati come fa le radio. Non si può accontentare di una laurea e poi metterla nel cassetto. Dopo un po'. Ma Parenzo, no, io dico Parenzo, meglio quello. Parenzo non è nemmeno laureato, no, quello lo sa. Certo, ma questo sì, vabbè, ma questo lo si capisce al volo, insomma, lì poi... Beh, però almeno non giro con quei vesti, con quelle coperte sulla testa. È un ominide, si sa, ci sono ancora ominidi, come ci sono in circolazione anche ominidi di derivazione neandertaliana, perché non tutti sono scomparsi. Però sono, scusi, sapiens, Divino, Sapiens ha eliminato alcuni, ma non tutti. Non tutti, scusi, però Divino, io vorrei chiedere una cosa. Perché la chiami Divino? Non ho capito. No, perché, come perché scendi sul suo terreno? Però voglio dire una cosa, Divino. Perché lei la chiama laurea terrena? Cioè, perché la chiama laurea terrena? Perché è una laurea terrena, è talmente evidente. Vabbè, ho capito, però è perché... È una laurea conseguita sul pianeta Terra e quindi è terrena, questo è ovvio, è una semplice constatazione. No, questa è semplicemente una stronzata, scusi, che è una laurea e basta, perché lei conosce anche le lauree celesti. Non ha niente da dire, quando uno non ha niente da dire. Ma perché esistono le lauree celesti? Esistono le lauree celesti. Senti, io mi sono rotto i coglioni. Già il fatto, no, non ne posso più. Già il fatto di questo che parla col plurale maiestatis mi sta sui coglioni anche solo per questo, guarda. Può avere 8, 9, 10 lauree. Uno che parla col plurale maiestatis mi ha rotto i coglioni. Inizio che insomma diventa un po' la spalla praticamente di tutti. Tutti si capiscono tra di loro, tu non capisci quello che dicono loro. Alla fine pensano, ma chi è questo povero pirla? Non è uscito fuori. Ma è quello della zanzara. Ah vabbè, allora si dice quello. Ma perché ce l'ha così con lei Parenzo? Complesso di inferiorità. Ah, ovvio. Complesso di inferiorità. Certo, lui questo naturalmente è vero, sì, certo. Non si rende conto della sua pochezza. Sì, non mi vesto come lei, ma, certo. Cosa mai potrò fare per raggiungere una tale vetta? Non nulla, parlo al plurale. Cosa certo. Può fare? Comunque la tesi è dei, senza senso, sì, ci rendiamo conto. È un essere che trascina le sue stanche inutili membra per le strade del mondo. Quello bello che trascina. Lo considera. Al massimo gli spengono qualche cicca sul braccio come portacenere, ma a parte quello che altra utilità può avere? Allora, dei teniamo angeli. Presente che sta parlando, giusto per contestualizzare, sta parlando un signore che manda comunicati nei ai giornali e alle televisioni spacciandosi con la cancelleria del Divino Otelma. Sì, mette vabbè, un numero dell'esistenza sì, di una segretaria alla quale risponde lui, perché non c'è nessuna segretaria stasera, non c'è nessun banchetto, è da solo a casa con una bottiglia d'acqua con del limone rancido a festeggiare una laurea che ha conseguito davanti a un televisore. Questo è il banchetto che sta organizzando questo signore che Cruciani continua a chiamare Divino. Divino, perché naturalmente Parenzo a chi può essere associato? A chi? Non a un essere umano, ma semplicemente a, che ne so, forse un bonobo, ecco, un bonobo, però i bonobi sono molto più bonobo, umani in realtà, perché i bonobi hanno una capacità espressiva che travalica la dimensione dell'animalità pura. Va bene, Divino, a presto, a presto. Siamo alla sua festa che sentiamo. Guardate sotto. Domani pomeriggio il programma di Barbara Sicuro, D'Urso. Al 100%, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Elo. Vabbè. Elo. Giuseppe da Catania. Mi sentite? Sì, Giuseppe. Allora, io volevo fare un commento sulle telefonate razziste, anti persone di colore, anti ebraismo, anti diversi che ricevete in continuazione. Sì. Soltanto siccome c'è anche gente normale che vi ascolta, non ci sono solo tanti esaltati. Allora? Voi rappresentate il bar. Vi ricordo che il razzismo quello più grande di tutti, è nato in una birreria, lo sapete meglio di me. Me ne fotto di questa cosa, lo sa che me ne fotto. No, ma un altro problema che volevo rilevare prima della conclusione, una cosa velocissima. Qual è? I razzisti sono come dei vampiri. Il razzista, uno con la faccia di caldero, olio, queste persone che... buttano il fango, buttano luoghi comuni, stereotipi. Intanto quando lei dice la faccia di Calderoli è razzista più di Calderoli, o come Calderoli? Esattamente, sono come... infatti le sto dicendo, se mi fa finire di parlare capirà cosa dove voglio arrivare. Sono come dei vampiri, mi mordono e io a sua volta li odio, come è successo a quel parlamentare belga che parlava di odio. La persona incredibilmente dolce, quella signora, il ministro, ha il comportamento, ha il comportamento più sano, più normale. Non perché li piglia per il culo, dice lei, li piglia per il culo. No, non si è fatta mordere, si possono combattere gli stereotipi senza poi dire che quello è peggio di noi, che quello è cattivo. Beh, però con una differenza, oggi c'è stato un cambio, perché in un'intervista a Repubblica la Gang ha detto che bisogna fermarli, Okay, va bene, fermarli. Beh, però dobbiamo fermare noi adesso, dobbiamo autofermare. Basta. Domani 18:30, che dici basta? Io continuerei fino alle 2 di notte. Basta. Ciao cani. Ciao. Bestie. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.